Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Benvenuti signori miei, domenica 13 novembre, sono le 14:32 minuti e 49 secondi, si apre una nuova puntata di Voice Anatomy. Come sempre vi ricordo i natali di questa giornata: nasceva Whoopi Goldberg nel 1955, Dacia Maraini nel 1936, ovviamente il 13 novembre, l'amico Biagio Izzo, al quale dovrò fare gli auguri, nel 1962, il grandissimo e indimenticato Jimmy Fontana del 1934. Ma pochi giorni fa si è spento un grandissimo. La voce ancora riecheggia nell'eco in tutto il mondo, che è Leonard Cohen. Per cui questa puntata vorrei dedicarla a lui, e aprirei con una piccola biografia per ricordare a chi già lo sa o a chi non lo conosce. Leonard Cohen è nato a Montreal nel 34 da una famiglia ebraica emigrata nel Canada. Suo padre è morto quando Leonard aveva soltanto 9 anni, era polacco, mentre sua madre è di origine lituana. Si iscrive all'università, dove si laurea in letteratura inglese nel 55. Il periodo poi universitario vede proprio i suoi inizi nella poesia. Il primo album, pensate, di Reading proprio, esce nel 57 con il titolo Six Montreal Poets e contiene 8 poesie recitate dalla grandissima voce di Leonard Cohen. Il primo disco da cantautore, Songs of Leonard Cohen, non ottenne un gran successo per via dei temi trattati, erano gli anni della spensieratezza hippie, un disco su suicidio e morte andava sicuramente controcorrente. Il secondo disco, Song From a Room, esce nel 69 e ne decreta proprio il successo nelle hit parade mondiali. Leonard Cohen ha avuto 2 figli, Adam, anch'egli un cantautore, e Lorca, entrambi da una relazione con l'artista Susan Errod. Ha avuto anche una lunga relazione sentimentale con l'attrice Rebecca De Mornay. Nell'ottobre del 2016, poco tempo fa, esce l'ultimo album del cantautore canadese, You Want It Darker. Poche settimane dopo, proprio una settimana fa, il 7 novembre 2016, Leonard Cohen si spegne a Los Angeles. Ho sentito di un accordo segreto, suonato da Davide, gradito al Signore. Ma a te, della musica, non importa poi molto, vero? Beh, fa così. La quarta, la quinta, la minore scende, la maggiore sale. Il re perplesso compone l'alleluia. Alleluia. La tua fede era salda, ma avevi bisogno di una prova. La vedesti fare il bagno dalla terrazza, la sua bellezza e il chiaro di luna ti vinsero. Lei ti legò alla sedia della cucina, ti spaccò il trono, ti rase i capelli e dalle labbra ti strappò l'alleluia. Alleluia. Dici che ho pronunciato il nome invano, ma se non lo conosco nemmeno il nome, ma anche se fosse, a te poi cosa importa? C'è un'esplosione di luce in ogni parola, e non importa se tu abbia sentito la sacra o la disperata alleluia. Alleluia. Ho fatto del mio meglio. Non era granché, non provavo nulla. Così ho provato a toccare. Ho detto il vero, non sono venuto per prenderti in giro, e anche se è andato tutto storto, mi ergerò davanti al Dio della canzone, e dalle mie labbra altro non uscirà che alleluia, alleluia. Sure. Signori, la voce recitante del grandissimo Luca Biagini. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Ma che bello, che brividi, certo. Anche Leonard sarebbe contento. Dai, lo spero. Ma dai, sicuramente sì. Non abbiamo avuto segni di disfatta in questo momento. Per cui, grande, beh, recitare grande. Poi in italiano, una traduzione al volo di Alleluia. Anche, vedi che quando c'è una voce giusta, può veramente recitare l'elenco del telefono e sembra chissà che cosa sta dicendo. No, beh, no, non era facile. Beh, insomma, sono parole comunque importanti, belle. Sì, dai, sì, dai, però è... tu l'hai letta adesso. Insomma, sì, non è che ti ho telefonato a casa. No, non l'abbiamo studiato. No. E questa è la bravura di un attore, di un doppiatore. All'impronta, diciamo, di quant'altro. Signori, Luca Biagini, a grande richiesta come sempre, ma non c'era bisogno di questa grande richiesta. Ma ogni domenica sono abituati a mandare. A ma quando lo chiamate? Ma quando? Ringraziando il cielo, sono tantissimi i professionisti che si alternano a questo microfono, a parte il sottoscritto. E allora Luca Biagini, anche perché sta in giro con il teatro e il doppiaggio e quant'altro, magari la domenica, no? Uno rischia pure di voler rimanere due secondi. No, ma a tanto sono pomeridiana alle 6:30. Ma sei in teatro adesso? Siamo in teatro qui a Roma. Allora diciamolo. È una radio che è abbastanza ascoltata. Sì, sono in teatro fino al 27 di novembre, dal giovedì alla domenica. Dove siamo? Teatro della Visitazione. Altro Roma che Alleluia, è proprio intonato il teatro della Visitazione. Sì. Ma tu leggi, tu stai in tournée per i teatri di tutto il mondo, tutta Italia, tutta Roma. È un teatro bello, sai, è un teatro. Dove si trova? Che zona sta di Roma? Inizio della Tiburtina, più o meno all'altezza della De Paulis, dall'altra parte. Sì, però. Ok, gli studios. Esatto. Ci ho fatto le prove. Ci ha fatto le prove, perché è una sala prove prevalentemente. Sì. Però questo è uno spettacolo particolare, tratto dalla famiglia Karamazov. Non vi spaventate, no? Ecco, perché dura 7 ore, no, ronconiana memoria. No, lo spettacolo è un po' punk, quindi Karamazov è un po' punk. Chi l'ha tradotto? Adattato? L'ha tradotto, adattato e ha fatto la regia di questo evento, che per cui è un evento più che uno spettacolo particolare, Lauro Versari. Va benissimo, allora sei in scena, sono in scena, sì. Teatro della Visitazione. Della Visitazione. Venite scalzi, entrate con punta di piedi. No, assolutamente sì, no, anche perché siamo tutti coinvolti, perché è il compleanno di Fiodor, del padre, che sarei io. Ah. È il compleanno di Fiodor, arrivano i figli che si massacrano. Per cui mi fai Dostoevsky in scena. E per cui ti faccio Dostoevsky in scena, ma il pubblico partecipa alla festa. Quindi c'hai i tavoli, si siede, mangia, beve. Tu sei sempre sperimentato, sei sempre avanti, perché devi sapere, io lo racconto perché l'ho vissuto. Luca Biagini l'ho conosciuto la prima volta, teatralmente parlando, non so, forse 40 anni fa, con il grandissimo Giancarlo Sepe. Penso nel 78, senti, se vogliamo allora, dare proprio un anno preciso. Collochiamo, io avevo 19 anni, e finivo il liceo e cominciavo l'ISEF, ed era Accademia Ackermann. Sì, grande, grandissimo. Sepe, sapete perfettamente, mi rivolgo, ovviamente è uno dei pochi che col teatro di ricerca è riuscito a trovare qualcosa, nemmeno di quel periodo storico molto importante. Beh, tra l'altro adesso sta anche avendo dei problemi enormi con il Teatro della Comunità, che è il suo teatro storico dagli anni 70, in Viale Trastevere, come e c'è un problema di contenzioso, credo, con il comune. Però secondo me la sfangherà, perché la deve sfangare. Ma deve, quella è storia. Cultura, del teatro, dello spettacolo. C'è gente che ha cominciato ad amare il teatro, me compreso, grazie a Giancarlo Sepe, al Teatro della Comunità e quella straordinaria accademia. Bisogna dirla questa cosa, perché urlarlo. È importante adesso che lo cercherò e lo farò venire a urlarlo attraverso questi microfoni. Sì, perché è una cosa, una battaglia importante che sta facendo, perché vorrebbero farci, non lo so, un magazzino per il deposito di qualche cosa. Mi sembra giusto, dai, mi sembra giusto che sia così. Magari qualche Mac che non sa dove appoggiare. Speriamo, no, io sono sicuro che ce la farà. Casomai gli facciamo una telefonata alla fine di questo blocco, vediamo se becchiamo Giancarlo e riusciamo a farlo, anche perché è un regista pazzesco davvero. E allora, parliamo di questi inizi che per me sono stati sconvolgenti anche per il teatro. Ma Luca, tu hai cominciato in quel momento o prima? Io sono vecchietto, ma col fatto che ti sei tolti i capelli come Ciufoli, che ci avete sti capelli post-datati, vi siete tolti almeno 10-20 anni dalla vostra... Qui non leggo dalla sua biografia. Guarda, non leggo di quand'è questo Mauro Meconi. Tu che eri addetto alla biografia anche del dottor Biagini, non so quando è nato. Guarda, io ti posso dire quando è nato. È semplice, sono nato il mio numero è il 49. Il 49. Il mio numero, come, anno di nascita e il mio numero... Di scarpe? No! No, di scarpe no, di scarpe no, però la mia, il mio appartamento dove vivo a Roma è l'ho scelto perché era il 49 e il K era 00149. Il mio numero di gara, perché faccio delle gare in moto, è 49. Ah, sei un pazzo, sei un motociclista come il povero Meconi. Sono un motociclista, sì. Sei il 49 in tutto. Sì, 49. Abbastanza malato sono, sì, ah, di moto. Ma io non la sapevo. No, Luca ti conosco, ma non sapevo che eri pazzo. Per cui capelli al vento l'hai tolti per quel momento. Esatto. C'è il casco, che te ne però frega. Nel casco io ho messo tutta delle pelurie, capito? Allora, perlomeno. I ricordi. Signori, Luca Biagini è straordinario perché magari uno non lo sa oppure vede quei film e non legge chi è il protagonista, ma lui è John Malkovich. Ma non soltanto John Malkovich, Kevin Klein, Stanley Tucci, Colin Firth. Prima di andare in pubblicità ci ascoltiamo da uno dei tanti film di Luca, magari io comincerei proprio con Il discorso del re. Bra. No? Mi sembra giusto. Beh. Colin Firth con la voce di Luca Biagini. In questa grave ora, forse la più fatidica della nostra storia, invio in ogni casa del mio e popolo, sia in patria che oltremare, questo messaggio, rivolto con la stessa profondità di sentimenti a ognuno di voi, come se fossi capace di varcare la vostra soglia e parlarvi personalmente. Per la seconda volta nella vita di molti di noi, noi siamo in guerra. Straordinario, non era facile rendere quel Francesco Verano, sì, adesso direttore. Magari in radio non si capisce, no, però va bene, ma la gente lo sa, insomma, stava chi ha visto l'Oscar, il film lo sa perfettamente la fatica. Sì, era complicato perché poi non era più che balbuzzi, era proprio un attacco di panico che gli bloccava il respiro, come il vero attacco di panico. Si trattava di respirare con lui o di non respirare con lui. E quello è il segreto del doppiaggio. Esatto. Arrivano già tanti messaggi, a parte i tanti complimenti ovviamente alla trasmissione, eccetera, eccetera. Ciao Pino, un saluto al grande Biagini, dottor House egregio. Sì, anche lì hai preso in sostituzione del povero che ci ha salutato un po' presto. Non era facile, devo dire. Di Stefano, Sergio, no, Di Stefano. Sergio, no, Di Stefano, però in punta di piedi si entra, sì. E tu ci sei riuscito in qualche modo. Consentimi però un appunto a te, Pino, nella lettura della biografia d'inizio trasmissione. 16 è chiuso, non aperto. Lo so, mi è sfuggito. Scusate, vedi, te l'ho detto che sono attenti. Con rispetto, grazie a Capuano. Ciao Pino, normalmente vi ascolto il giorno dopo in podcast, che è uno dei più scaricati. Devo dire grazie a voi nel casino dell'autobus che guido. Oggi invece sto tornando a casa dalla maratona di Ravenna che ho appena corso, e sentirvi in solitudine nel silenzio della mia auto con l'equalizzazione che esalta le vostre corde è veramente una figata. Ciao da Alen e ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo. Va bene, siamo arrivati alla fine del primo blocco, continueremo ovviamente tra poco con Luca Biagini perché Voice Anatomy è appena cominciata. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. bredaportoni.com vi presenta Voice Anatomy. In my secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life. I saw you this morning, you were moving so fast, can't seem to loosen my grip on the past. And I miss you so much, there's no one inside. Certo, entrare dopo Cohen, bisogna parlare così, Luca. Beh, è giusto, dai, c'è un omaggio oggi a Leonard Cohen, che è la voce per eccellenza per quanto riguarda almeno la musica, è un poeta, insomma, ci sta tutto. Sì, devo dire che è un attore, cantante, poeta, non lo so. Ma se la batte molto vicino con Bob Dylan, che ha avuto il Nobel per la letteratura. Sì, per la letteratura, forse sì, se lo meritava, non dico più Leonard Cohen. Esatto, ma, insomma, è una bella battaglia, una bella sarebbe battaglia, anche sì, perché almeno la voce di Leonard Cohen è piacevole. Lì era però rappresenta un'epoca, capito? Ah, certo, la Big Generation è quella lì che è stato il primo. Io c'ero. Tu c'eri. C'ero, sì, sì. Sei 49. Ero già sulla breccia. Eri già stanco. Già inizio di prostatite nel 68. Io nel 66, pensa un po', ero al liceo ed ero l'unico, non ci crederai, capellone di Siena. No, davvero. Andate a cercare le foto di Luca Biagini. Ero l'unico capellone ed ero naturalmente messo al bando da tu sei senese? Sei... Sì, sono di Siena. Sei di Siena, sì. Cioè della campagna senese, che è molto diversa dalla città. Ci tengo a dirlo perché i senesi sì, hanno ci qualche tengono problemino. Diciamo, c'è questa lotta di tutto dal senese campagnolo esatto, e il senese di città, sì, che non è il topo di campagna, no, il topo no, di città. Il senese contadino è diverso dal senese cittadino. Ma sono le diversificazioni che corrispondono sempre al campagnolo e al cittadino, o proprio c'è qualche caratteristica diversa? No, c'ho qualcosa di più. Cioè, non vorrei entrare non ti vuoi incattivire no, i tuoi compaesani no, no, soltanto di la differenza agricolo alimentare. Potete chiamare se volete, mandate, a proposito gli sms lo sapete perfettamente, 349-238-6666. Se volete venire in diretta, ma so che state sempre in punta di piedi, 800-2400-24, la nostra pagina Facebook la visitate spesso, cliccatela e vivetela, anche perché il giorno dopo, a parte il podcast, esistono tante bellissime cose. Ringrazio all'altra parte del vetro Alessandro, nostro tecnico del suono straordinario, Rachele, la nostra caporedattrice, sempre pronta e puntuale anche a intervenire ai nostri microfoni, Mauro Meconi, Alessia Navarro, autori veramente senza i quali non potrei sopravvivere. Beh, ora ci avevamo fatto il nostro dovere, dice un sms, con l'omaggio a Cohen, per cortesia me mandate Lando Fiorini e caliamo. No, un grandi Lando è un amico ed è straordinario, anche cercato, non se la sentiva, cioè, ma lo incastrerò. Allora, amico mio, teatro, tu cominci così, per cui famiglia non d'arte. No? No, no, sì, oddio, veramente mio babbo suonava il violino. Ah, per cui c'era, insomma, e ha fatto 10 anni di conservatorio, poi, poi non si è diplomato. Dalla campagna, figlio di contadini, immagino. No, oppure... contadini no, erano fabbri, ferrai, insomma, okay, erano artigiani. Artigiani erano, però naturalmente in una campagna profonda, proprio 300 persone di un paesino piccolissimo, distaccati da tutto. Quest'uomo, non so perché, violino, si innamora del violino. Però il problema del mio babbo è che non ha, povero uomo, non ha finito nulla. Ha fatto le magistrali, è arrivato all'esame di maturità finale, non l'ha fatto. Ha fatto il conservatorio, non l'ha finito. E allora, fortunatamente quella notte con tua madre ha finito. No, ha finito qualcosa. Sei venuto tu. Ma la cosa bella è che dopo tanti anni che facevo già un po' questo lavoro e lui non è che ci credesse tantissimo, e la racconto perché è una cosa bella. No, ma è bello, simpatica. Anche perché raccontiamo pure l'altra parte. Questa cosa è molto tenera, dico la verità, perché lui. Ti metto una musica? Ti metto la musica di sottofondo. Ti metto una musica. Vai, vai. Sei un attore. Poi sei così naturale. Vabbè. Vai, Alessandro, quello che vuoi. Morbida, sì, così. Ecco, va bene. È bella questa storia perché io facevo già l'attore, lui non ci credeva moltissimo perché veniva da tante sconfitte personali, quindi dice, mo adesso questo qui poveretto patirà, chissà dove andrà a finire. Però dopo un po' si era quasi convinto e mi raccontò questa storia, che lui quando nacqui, lui fece questo voto. Dice, io mi auguro, faccio un fioretto, mi auguro che mio figlio possa fare un'attività artistica, qualsiasi essa sia. Oh, Che bella, bella questa cosa. È bella, ci stava tutto. Io ti stavo ascoltando con grande affetto, anche perché è vero, uno si conosce, si parla, ma mai approfonditamente, anche perché non c'è mai il tempo di conoscersi. Ci sfioriamo, esatto, poi, belle scene, delle cose con cui si parla della vita, di tutto quello che ci riguarda. Però il mio babbo, sai, quando mi ha riconosciuto, ti ha riconosciuto come cognome, attore, no? Come attore. Quando mi ha riconosciuto dove? A 39 anni, era già 20 anni che facevo l'attore. È venuto a Siracusa, al teatro Greco di Siracusa, con le nuvole di Aristofane. C'erano 10.000 persone, 10.000 persone che stavano lì, che applaudivano e mi seguivano. Disse: ma sai che ti dico, forse ce l'hai fatta. Sì, che bello, però è riuscito ad abbracciarti così. Mamma invece era lei, mamma era casalinga. Mamma era romana, la mamma, quindi aveva il cuore romano, l'anima romana, più popolare, popolare, molto mamma, quindi mi adorava da comunque qualsiasi cosa facessi. Al primo vagito ho detto: questo è un grande attore. Lei l'ha riconosciuto subito. Tu poi hai cominciato con il teatro, immagino subito. Sì. Teatro, quello è la base. Ho cominciato all'università, attore. Facevo lettere a Firenze nel 68. È il periodo più tenero per l'università. Subito. E mi sono messo in contatto con un gruppo teatrale che faceva teatro politico, impegnato in quegli anni. Certo. E da lì ho cominciato. Da lì poi il primo approdo in televisione, però c'è poco tempo, c'è un minuto, ma sei ancora con noi, non ti preoccupare. Okay. Però superiamolo sto minuto. Certo. Ci sono ancora messaggi e c'è dei complimenti, vabbè, io... Dice Mauro: leggi sempre quelli, i complimenti. No, complimenti, okay, va bene, sono belli, però ogni tanto qualche frecciatina velenosa mi piace leggere, però per ora non ci sono. Per cui hai abbandonato immediatamente la campagna senese e sei arrivato in città? Sono andato a lettere, a fare l'università a Firenze, dove ho cominciato a fare teatro, e sono stato lì a fare la facoltà, e anche lì non mi sono laureato, però già facevo professionismo con il teatro fino al 75-76. Sono arrivato a Roma e ho cominciato poi questa avventura. Sì, questa avventura con Giancarlo Sepe, che mi ha dato tanto. Tantissimo. E tu a lui. Però finiamo questo blocco con, visto che lui è John Malkovich, ha fatto un film che si intitola Essere John Malkovich. Ah, sì, è fighissimo. E allora ascoltiamo quello, andiamo in pubblicità e torniamo con Luca Biagini. Voice Anatomy, a tra poco. Welcome to the 7.5 floor of the Merton Plumber Building. Il mio nome è Craig Schwartz e ho un colloquio di lavoro con il dottor Lester. Ah, la prego, si sieda, signor Suarez. Mi chiamo Schwartz. Si chiama Suarez, ho capito. Quale di queste due lettere viene prima, questa o questa? Quello a sinistra non è una lettera, è un simbolo. Dannazione, bravo. Credo che tu ne sappia di più. Tutto questo lo fai per infilarti nelle mie mutande? Ah, no. Tesoro, hai più pensato di avere un bambino? Penso che dovremmo aspettare, insomma, per vedere se questo lavoro andrà bene. C'è una porticina nel mio ufficio, Maxine, ed è un passaggio che ti conduce all'interno di John Malco. Voice Anatomy. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Mi crea un imbarazzo enorme entrare dopo questa voce. Luca Biagini ancora al mio fianco, tanti messaggi. Qualcuno mi dice: quando doppio Stan Smith non mi viene voglia di saltare addosso a Francine. No, va bene. Poi parla di Cohen e Dylan, due giganti, però esiste il rock and roll prima di Bob Dylan e il rock and roll dopo. Lui è innamorato del rock and roll, questo signore. Un saluto a Pannofino. Va bene, un abbraccio al grande Luca Biagini. Ciao Pino, grazie ancora a te e a tutti i tuoi colleghi doppiatori per avermi involontariamente aiutato con il diploma in un periodo dove siamo denigrati da tutti. Almeno noi italiani abbiamo un grande vanto, il vostro lavoro, poiché voi doppiatori italiani siete i migliori al mondo. Buona giornata e continuate così. Saluti da Alessio. Beh, grazie Alessio, bello, ha fatto bellissimo. Una tesi sul doppiaggio, sul linguaggio, ma insomma bello, molto bello. Ci sta anche questo. Eravamo arrivati a questa situazione molto intima della crescita, papà e mamma, mamma che ti ha provato dal primo vagito, papà che si è accorto di te dopo 10.000 persone al teatro greco, esatto, di Siracusa, ha detto forse il mio fioretto. Ma è poi andato... papà era curioso perché mi ha visto nei primi spettacoli soprattutto che erano impegnati, molto profondi, così politici, e mi vedeva sempre vestito male, no? Sempre era un periodo di stracci, sempre così con l'eschimo, come cacchio, no? Come cacchio, cioè non sei un attore, come fai un attore vestito così? Esatto. Quando la prima volta che mi sono messo una giacca, la cosa, vestito bene, facevo un personaggio, un bel signore, no, dice finalmente sei questo un sei un attore. Però in scena eri vestito così, non nella vita di tutti i giorni. No, certo, in scena. No, lui ti voleva, credo, nella vita di tutti i giorni. No, mi voleva in scena. In scena voleva vedere l'eleganza. Certo, poi, un suonatore di violino. Non poteva vedere la cosa. Papà, il personaggio. Non posso mica fare uno straccione, una cosa che vestito in giacca e cravatta. Dice, no, però, no, così sei troppo sciatto. No, ti voglio vedere un po'. Finché non ho avuto giacca e cravatta, non lui sono non stato un attore. No, neanche 10.000 persone giacca e cravatta. Beh, e quello, quanti anni hai salutato, papà? È ancora vivo? No, c'è purtroppo ancora... no. Immagino di no, purtroppo infatti. No. E quelle sono cose. Sì, sì. Se n'è andato via presto, purtroppo. Ah, anche presto. Troppo presto. Ma lui ci sta ascoltando. Sta venendo male a mia madre e si stanno facendo due belle risate. Io penso proprio di sì. Sei vestito... è vestito solo col maglione, ma lo vede perfettamente. Siamo per radio, però te lo dico. C'è una cravatta, non è vero. Non lo puoi nascondere a loro. Tu hai doppiato tantissime persone. Qual è stato lo sliding door? Come hai cominciato nel doppiaggio? Perché da teatro. Ho cominciato con. Hai cominciato già... Lei vuole fare doppiaggio. Biagini. E chi era Cigoli? Cigoli. Ah, grande John Wayne. John Wayne. Hai avuto questa bellissima cosa di cominciare con la prima generazione. Ma ho cominciato perché io doppiavo me stesso in una serie italo-francese. Una serie dei fine anni 70, primi anni 80, una serie italo-francese con il protagonista che era un detective. E l'attore era francese e io facevo un ruolo insomma in una puntata. Tu parli francese? No, ma in italiano. Io facevo un italiano. La serie era comunque editata in italiano. In italiano, ok. Quindi facevo questo ruolo e mi sono dovuto doppiare. Sono andato a fare questo personaggio e alla fine del turno sento dalla regia. Dall'interfono. Biagini, venga un attimo in regia. Faccio un culo così. Esatto, te gonfia. E invece ma lei ha mai fatto doppiaggio? No, dico no, signor Civoli, ma lo vorrebbe fare? Dico sì, come no, certo, cavocetta piccola. E allora dice, allora ci penso io. E Joe Wayne quando ci pensa. Ha tirato fuori le pistole, esatto. Ha fatto fuori tutti, ha sistemato tutto. Poi è cominciato bene, serie vera. Sì, però poi naturalmente tutti gli anni 80, tutte le cose che c'erano, le TV, sì, no? le serie. È un po' il periodo, diciamo, in minore rispetto a quello che è successo adesso con le fiction, insomma, esatto. Tra Troni di Spade, eccetera. Abbiamo fatto di tutto di più, io perlomeno ho fatto di tutto di più. Insomma, io non voglio raccontare me stesso, qui faccio un passo indietro, ma sì, quel periodo si faceva tutto, non sapevi chi eri. Di tutto, anche cose, insomma, sì, a rischio. I porno, sì, l'ho raccontato, io non mi vergogno. Ho alzato la mano e mi sono che indicato. È una delle cose più faticose del mondo. Ma perché la gente non lo capisce. Andavi in iperventilazioni, tanto svenimenti in sala. Esatto. Infatti, ogni tanto provo a spiegarlo che quando si ansima o si combatte nei film, non può durare più di 20-30 secondi quell'anello, perché altrimenti veramente svieni. Col porno erano lunghissimi. Mettevano tutto il rullo, esatto. Era 20 minuti e dovevi fiatare per 20 minuti. Alla fine crollavi per terra. Anche questo è bello raccontarlo, perché la gente si aspetta chissà che divertimento alle 9 di mattina a strillare e a godere come un pazzo senza nessun motivo, poi perché non c'erano motivi. No, c'erano delle partner ma inattendibili, insomma. Esatto. Non è che le puoi toccare, no. Non succedeva niente di tutto questo. E il primo ruolo importante quando è arrivato, Luca, nel doppiaggio? Ma diciamo quello fondamentale che mi ha proprio cambiato radicalmente la vita di doppiatore è stato le relazioni pericolose con John Malkovich, con Mario Maldesi come direttore. Signori, se non sapete che ogni tanto vi consiglio, anzi spesso vi consiglio qualcosa da vedere, beh, questo di Stephen Frears, le relazioni pericolose o le liaison dangereuse, chiedo scusa Alessia Navarro che parla francese. Ma è un film meraviglioso. È il trascendo ogni mio controllo, sì. Tuo nel film, cioè, di John Malkovich, ma tuo, perché l'hai fatto tu. È da segreteria telefonica, è da adesso, anzi, da suoneria. Sì, ma è un film di attori, è un film molto teatrale, però è bello. Molto cinema anche, cioè. Essendo molto parlato, molto recitato, però è grande cinema. Guardate, lì c'è una Glenn Close pazzesca, John Malkovich, uno dei primi film, forse il primo, di Keanu Reeves, che fa questo giovincello. Sì, e poi Michelle Pfeiffer. La primissima Uma Thurman. Uma Thurman, debuttava a 16 anni. E a seno nudo. Per anche. Cui se volete vedere una Uma Thurman niente male in quel film, devo dire, una ragazzetta, una fischelletta, niente male. Portatrice sana di seno in quel film, lì poi si è asciugata, si è alzata e si è kibillizzata. E da lì poi si è cresciuto con John Malkovich, è cresciuto insieme a te, non l'hai mai abbandonato. No, dirò insieme a John Malkovich, in quello stesso periodo Maldesi mi fece doppiare Harrison Ford. Hai doppiato Harrison Ford? In Donna in carriera. Ah, è l'unico vero. L'unico film che ho doppiato, cioè dove l'ho doppiato, perché sì, ovviamente c'è Cammino, c'è Michele Cammino che ci sta benissimo, è perfetto. Sì, però può succedere. Però su quella cosa, su quel film lì, che era una commedia, era più leggero, sì. Ci stavo anche bene. Per me fu un'emozione profonda, perché arrivò prima di Malkovich. Prima arrivò Donna in carriera, Harrison Ford, bello. E subito due mesi dopo arrivò John Malkovich, quindi per me fu un anno pazzesco. Importante. E poi arrivò Batman con Michael Keaton, è il primo vero, Batman, tu eri di Batman. Burton. Bellissimo, film dark vero che io ho scoperto poi negli anni, per esempio in questi ultimi anni, tutti i quarantenni di oggi. Quello è il punto, il Batman è quello. Tutti i oggi mi dicono tu eri Batman, cioè sì. Mi ricordano come una pietra miliare per loro, per la loro crescita personale, il film di Batman. Io non pensavo fosse così. Jack Nicholson fatto, sì, da Giannini, anche lì, insomma, era in dolce compagnia, sì. Diciamo, bellissimo. Ci sentiamo un altro momento del nostro amico The Terminal. Qui c'è Stanley Tucci, sì. Sì. Anche lui ogni tanto furiosissimo, qui era sì, qui veloce come una scheggia, sì, particolarissimo. Ascoltiamoci Luca Biagini, questo The Terminal, film di Spielberg, dove doppia Stanley Tucci. Lavoriamo più o meno 600 aerei al giorno, con un tempo medio di circa 37 minuti ad aereo, circa 60 secondi a passeggero. Merci che entrano nel paese, cibo o altro, cerchiamo di essere più efficienti possibile. Import-export. E cosa tratta? Software per computer. Quante noci? Sì, mia suocera le adora. Ogni volta che vado in Brasile mi costringe a portargliene un pacco. Sua suocera ha detto? Sì. Le spiace se ne assaggio uno. Come faceva a sapere che non erano per la suocera? Si è sposato, dov'è la fede? Si è divorziato, uno sano di mente parla ancora con la suocera. Scusate, voglio dire veramente, senza offesa per le suocere, ma... Signore. Sì. Mi scusi, signore, abbiamo un problema serio di sopra. Ho paura che dovrà aspettare. No, questo non può aspettare. Non può aspettare. Abbiamo preso uno dei tanti momenti bellissimi, anche questo film molto particolare. Senti, amico mio, sì, infatti leggevo qui Michael Keaton, giustamente i miei autori scrivono le cose, sono bravi, sono solamente un esecutore, cerco di accompagnare, ma loro veramente sanno tutto e molto più di me. Nel prossimo blocco invece mi voglio giocare Le Iene, dove tu doppi Tarantino. È un po' forte, non siamo neanche in orario consono, però ormai lo so. La buttiamo là. Sì, ma chi se ne frega, dai. Anche un grandissimo Bruce Willis nell'Esercito delle 12 scimmie. Grande film anche quello. Bello. Io lì doppiavo Brad Pitt, non abbiamo trovato nessun pezzo che facciamo insieme. Oh. No, parlavo troppo io quando stavamo insieme e poco te, per cui io faccio il conduttore. Però abbiamo condiviso un bellissimo lavoro. Grandissimo lavoro. No, quello bello, bello, bello. Però devo dire che in televisione tu hai fatto un debutto che mi fa sorridere, un po' tipo il mio mezzo destro mezzo sinistro con Gigi Andrea. Sentiamo che rispetto che hai beccato. Qui 1979 mi parlano di Super Andy, Andy Luotto, il fratello brutto di Superman. È possibile? C'eri in questa cosa? No. Meconi. Mauro Meconi. Un errore, ma no, perché cioè, parla di Teste di Cuoio che l'hai fatto teste di tu, cuoio. Sbam ma l'hai fatto Sbam tu. Che era di Ezio Greggio, esatto. Sconosciutissimo. Sconosciuto, è vero. Questi sono. Ma hai debuttato come attore comico brillante. No, prima avevo fatto il primo film nel 77, è Sarah Cross con il grandissimo Tonino Valeri, certo. Franco Nero, Michel Constantin, Pamela Villoresi, tutto girato nel deserto del Sahara. Guidavi una moto lì? No, non guidavo una moto. Non guidavo dei, insomma, ricordo che dei elicotteri avevamo. Ah, che bello. Era un film d'avventura molto bello, tra l'altro. Nel deserto. Tonino Valeri è quello di Il mio nome è nessuno, sì, con, certo, Henry Fonda, cioè è un grande, è stato, no, un grande, no, regista. Sì, dovrebbero andare a riscoprire che molte volte si chiamavano col nome americano. Sì, esatto. E lui mi prese con una foto in cui sembravo un quarantenne e avevo 26 anni, 27. Eri un uomo. E quando mi vide, disse: ma che cacchio, ma tu non ce l'hai 40 anni? No. Però la tua faccia mi piace, va bene lo stesso. Che bello, vedi? Un po' di meritocrazia che non guasta. No, piace questa non cosa. È che dice, però mi ha chiamato un amico importante per cui te prendo ugualmente. No, no, mi piace la tua faccia. Controcorrente, ma no, in quel periodo si faceva. Sì, sì, sì. Ma poi c'erano persone che avevano la libertà di decidere come volevano, non avevano, sì, nessun tipo di. Avevano dimostrato. Sì, dai produttori. I produttori, esatto, erano attenti, ma non invasivi da quel punto di vista. Assolutamente sì. E poi vieni avanti tu, che mi viene da ridere, i capitani. Sì, con Rino Banfi. Lo vedi che tu c'hai un passato comico? No, tu... l'ho rivisto da poco perché mi hanno mandato queste. Io non ce l'avevo, mi hanno mandato delle clip con le scene che ho fatto, dove facevo un tipo, un prefetto, un funzionario pubblico, non mi ricordo, insomma uno molto stimato, che era, però aveva una perversione, si doveva vestire da Lupo Mannaro con la valigetta del Sadomaso e aveva un incontro con Fabrizia Castagnoli. Era. Ah, la grande Fabrizia, era la grande mia partner, direttrice doppiaggio, anche adattatrice straordinaria. No, no, ecco, Fabrizia ha avuto con Fabrizia questa scena, sì. Come la sento, glielo ricordo. E quanto devo aspettare ancora per vederti al cinema, Luca? Una faccia, tu c'hai una faccia pazzesca, c'hai un'intensità incredibile, sei un bravissimo attore. Vabbè, che adesso il problema, sì, hai fatto la televisione perché sicuramente hai fatto tante cose, però cinema. Beh, ho fatto per anni. Ho fatto 100 vetrine, 100 vetrine per anni, esatto. Questa cosa qua, diciamo che sì, Edoardo della Rocca, che era il cattivissimo di 100 vetrine. E che è stata una bella palestra, perché comunque lavori tutti i giorni per 3 anni e mezzo, esatto, e ti fai un mazzo a così. Torino, dove a Torino giravamo, sì. Avrò fatto praticamente, ho fatto un piccolo calcolo, in 3 anni e mezzo ho girato l'equivalente di 150 film. Sì, sicuramente. Per il numero di scene girate. Perché poi il cinema è diventato la televisione, in tutti, anche per gli altri, anche per i signori Hoffman, per i signori De Niro, tutti, Woody Allen, adesso va alla regia. Sono delle serie meravigliose, veramente di grande livello. Scritte benissimo, recitate benissimo. C'è il rientro maggiore a livello economico, non rischi il flop, non rischi che non vadano al cinema, eccetera, eccetera. Per cui è una seconda giovinezza un po' per tutti. Sì. Per qualcuno qui è una prima giovinezza che vabbè, lasciamo stare. Io poi mi incavolo perché vedo certe realtà. Non è questa la sede per parlarne. No, è anche questa la sede per parlarne, però non devo essere io, altrimenti rischio pure qualche denuncia. Senti, prima di andare in pubblicità, ce l'abbiamo una cosa rapida, il Signore degli Anelli. Tu eri il re degli elfi lì. Sì. Io il re degli uomini, papapero. Eri molto più potente di me. Sì, che cacchio. Normalmente il conduttore ti fa un passo indietro, ma qui non me la sento. No, io ero il re degli uomini. Oh. Tu c'hai orecchie, certo, a punti. Gli elfi, elfi hanno un certo fascino. Ho capito, però un po' ambiguo. Con tutto il rispetto, chiudiamo questo blocco con il Signore degli Anelli e poi ritorniamo con l'amico Luca Biagini. A tra poco. Stranieri di remoti paesi, amici di vecchia data. Siete stati convocati per rispondere alla minaccia di Mordor. La Terra di Mezzo è sull'orlo della distruzione. Nessuno può sfuggire. O vi unirete o crollerete. Ogni razza è obbligata a questo fato, a questa sorte drammatica. Porta qui l'anello, Frodo. Stufe e caldaie Termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento. Voice Anatomy. The ponies run, the girls are young, the odds are there to beat. You win a while, and then it's done. your life as if it's real. A thousand kisses deep, I'm turning tricks. Ma è bello rientrare con Leonard Cohen, magari chi non lo conosceva può avere un po' di curiosità a sentire questo. Ma io mi auguro anzi che sì, abbiano voglia di ascoltarlo, di conoscerlo bene, perché è bello, è un grandissimo autore, cantautore meraviglioso, grande. Perché magari qualcuno conosce Alleluia perché l'ha sentita cantare da bravissimo Jeff Buckley, credo che sia la versione più importante, più conosciuta e più bella. E come Moon Dance dicono, beh, bravissimo Michael Bublé, dico no, Van Morrison, per cortesia. Vent'anni prima Moon Dance era Van Morrison. Ma i giovani purtroppo... Va bene, è giusto veicolare, cioè, per carità, dobbiamo fargli... Grande Luca Biagini, grande attore, grande uomo, grande professionista. Una donna in carriera, grande film, Caffè, te, me. Sì, c'è questa frase famosa di Melanie Griffith sull'ascensore. Sì, fece epoca. Ma fu inventata, come molto spesso succede, in sala, insomma, no? Certo, perché questo tante volte l'adattamento tradisce, ma spesso aiuta, come tante volte la voce cose, è azzecca alcune cose che sono poi rimangono nella memoria collettiva delle persone. Ma no? Cambia proprio l'evoluzione del linguaggio attraverso il doppiaggio, è cambiato anche per la strada. Noi facciamo ogni tanto all'università degli incontri ormai con dei professori durante il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio e devo dire che tante cose sono cambiate in italiano anche grazie all'adattamento di alcuni film. L'antieroe hollywoodiano che si passava dai belli Warren Beatty ai brutti Dustin Hoffman e dalle bellissime voci alle bellissime vociacce come quella di Amendola che riusciva a sporcare quei personaggi in maniera straordinaria, no? E allora cambia anche questo. Senti, amico mio, tante cose, tantissime cose, ma Le Iene c'è un momento che dobbiamo ascoltarlo. Tarantino, proprio il primo film, credo, importante, la svolta tarantiniana. E tu facevi proprio... Era il primo film di Tarantino e lui era lì, come attore. Mr. Brown. Mr. Brown, naturalmente non si smentisce perché ha sentito un po' cosa... Sentite, ecco, questa era una disquisizione a proposito del titolo del film, della canzone di Madonna Like a Virgin. Lui dà questa spiegazione: togliete i bambini da davanti alla radio, metteteli dietro, ma insomma andate in un'altra stanza, ma è una disquisizione meravigliosa. Prego, questo è Tarantino con la voce di Luca Biagini e vi spiega come nasce. Cazzo stavo dicendo? Hai detto che True Blue parla di una ragazza sensibile che conosce un bravo ragazzo, invece Like a Virgin è una metafora della fava grossa. Ah sì? Lo dico io di che parla Like a Virgin. Parla di una figa che scopa come una matta a destra e a sinistra, giorno e notte, mattina e sera. Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo. Quanti cazzi fanno? Una marea. Finché un bel giorno incontra un tipo cazzuto alla John Holmes. E allora vai alla grande. Cioè uno che con l'attrezzo ci scava i tunnel, come Charles Bronson nella Grande Fuga. Lei ci dà dentro come una maiala, finché sente una roba che non sentiva da un secolo. Dolore. Dolore. Ciù. Dobby Le fa male? Le fa male? Non dovrebbe. Perché la strada è bella che è asfaltata ormai, ma quando il tipo la pompa, le fa male. Lo stesso dolore che sentì la prima volta, capite? Il dolore fa ricordare alla scopatrice folle le sensazioni di quando era ancora vergine. E quindi, Like a Virgin. Bellissimo. È molto bello. No, lui è pazzesco. Veramente, come diciamo prima, Mauro Alessi, non sarebbe Tarantino. No, cioè, sono monologhi, sembrano così semplici, invece no. No, è geniale. Sono delle strade pazzesche. Straordinario accoppiamento Luca Biagini, J.K. Simmons in Whiplash o Whiplash da brividi. Anche lì ne parlavamo prima, è un film... piccolo grande film sulla musica, ma è un film, sembra di Stanley Kubrick, sembra a quei livelli. Ricorda un po', no? Full Metal Jacket, il sergente di ferro. Tu eri un sergente di ferro, ma nella musica, tu eri capo di questo gruppo. Pazzesco. Un film sulla musica, per chi ama la musica, veramente secondo me è imperdibile, perché poi c'è il rapporto maestro-allievo c'è un tutto. Rapporto sadico, direi. Sì, sì, c'è anche Ionesco lì, la lezione, c'è tutto là dentro. No, bravi, sono molto attenti. Ti ripeto, questi ascoltatori io li adoro in tutto e per tutto, anche quando mi cazziano, come questo amico Marco che mi dice basta, esistono altri aggettivi a parte pazzesco, basta con assolutamente. Vabbè, ma mandami qualche sinonimo e io giuro lo utilizzerò. Già ho cambiato, non dico più laico, ma dico profano, perché mi hanno corretto. Anche sul laico ti hanno beccato. Sì, scusami, ma laico non è giusto, è profano. Vabbè, Io mi adatto. Cioè, sacro e profano, non sacro e laico. E laico, esatto, c'ha ragione. C'ha ragione, da quel punto di vista ha ragione. Adesso, mio caro Luca, mi leggi, così a sorpresa, un altro momento di Leonard Cohen, un'altra poesia di Leonard Cohen, perché lui è un gran poeta, sì? Non te l'ho fatta leggere prima, però questa è sull'amore, ma tante volte ti trovi davanti a un leggio e ti dicono che pagina. Buttiamola là, vediamo che succede, là. Porca miseria. E vai, ma che senza neanche, guarda, ecco il manco, foglio. No, senza occhiali. No, occhiali, sì, mettere, perché anche ti rischi di dire chissà che cosa. La cuffia la alzi, si abbassa gli occhiali. Eccoci. Alessandro, ovviamente, state a creare la giusta atmosfera. Ti ho sempre amata per la tua bellezza e la tua saggezza, ma non serve che io ti dica di più, poiché lo sai già. Adesso voglio solo augurarti buon viaggio. Addio, vecchia amica, amore infinito. Ci vediamo lungo la strada. È venuto il tempo in cui si è vecchi e i nostri corpi cadono a pezzi. Credo che ti seguirò presto. So di esserti così vicino che se tu allungassi la mano potresti raggiungere la mia. Questa è la lettera d'amore della sua Susanna. Sì, che era stato avvertito che stava per morire, oppure era già successo. O Marianne. No, Susanna. Susanna è chiara da Rachele. Susanna. Rachele è la nostra caporedattrice. Susanna. Marianne, hai ragione tu. Allora, dammi la mano. Scusami. Non importa. Ecco, se tanto non dice niente, mo dicevano loro. Arriva. Fino quando non sai, state zitto. Non correggere almeno. Marianne, sì, è vero. C'era questa. Perché mi ricordavo questa Susanna. Per quale perché motivo? C'è una canzone. Sì, c'è una canzone. Hai ragione, sì. Ecco, una cosa. Ma non la sapevo neanche io, perché ieri sera su Facebook ho visto. Ho letto. Non dirlo. Allora, cose importanti, veramente. Sembra fare una puntata, tanto torni, qui mi dicono bellissimo, tanto solo Tarantino può pensare a questo alto livello, è l'alto livello della voce di Luca, dice Francesca. E Ramses nel Principe d'Egitto? Che t'ha fatto? Non lo so, qui lo dicono. Eppure quello, sì. Sì, ma troppi ce ne sono. Cioè, non è che... Io dovete ricordarmelo, perché esatto, io da solo non ci arrivo. Infatti Luca mi ha detto, ma dico, mandami qualcosa, ricordami quello che devo preparare, perché invece non mi sono tanto preparato, ma comunque... Ma dovevamo parlare della tua vita, a parte Super Andy, che non c'entri niente. No, perché Wikipedia racconta delle cose. A volte anche delle cazzatelle. Esatto, ricontrolliamoci, perché ogni tanto facciamo dei matrimoni, dei divorzi e delle situazioni che non sono assolutamente vere. Ricordiamo invece la cosa teatro, che è importante. Il teatro è come il delitto, non paga, ma dà tanta forza per continuare a fare questo mestiere, perché lì sei veramente nudo. Lì non ci sono raccomandazioni, non ci sono scorciatoie. Ci sono tradimenti, non ci sono citazioni o nomination per uscire alla fine del primo tempo. No, sì. Siamo al Teatro Ricordo a Roma. Teatro della Visitazione fino al 27 di novembre. Siccome è un evento particolare dove lo spettatore è partecipe, nel senso che non deve interagire con noi, certo, però è partecipe alla festa, ci sono pochi posti e sono quasi tutti... Vieni. Già prenotati. Ma che bella. Quindi, cosa, ragazzi, che vi devo dire, provateci e noi saremo felici. Ma queste sono le cose più belle del mondo. Il teatro, anche se il teatro c'ha 100 posti, ma è esaurito. È una meraviglia, come se fosse il Sistina a 1200 persone. Ma sì, è uguale. La sensazione è quella. Poi riprenderò a fine gennaio Billy Elliot. È vero che tu sei il papà di Billy Elliot. E saremo in tournée per fino a oltre Pasqua, insomma. C'è anche un Mussolini in mezzo a tutto questo, sbaglio? Oh, cavolo, te lo ricordo io, vedi? Mussolini che è andato in onda su Rai Storia venerdì sera. Allo spettacolo è stato ripreso e mandato in onda. Sì, mandato in onda. E lo riprenderemo al Salone Margherita a Roma a maggio. Sì, anche se il posto sembra effettivamente non so se però Mussolini in paillette. Esatto, non è così. Anche perché Pierfrancesco Pingitore è un grandissimo storico, un grande autore, di lui ha scritto dei testi, devo dire, molto, molto informati, molto documentati. Non sono faziosi, sono oggettivi. Bravo, è molto imparziale. Sì, è un bel racconto. Sono poi in due, l'hai fatto in due... Tre testi, storie, uno trittico. A Villa Torlonia, uno a Campo Imperatore, Operazione Quercia, il finale quando fu preso dai tedeschi con gli alianti, e il terzo Scacco al Duce, quando l'ultima notte di Mussolini con con Clarita prima della fucilazione. E me lo sentii una volta una poesia letta da Oreste Lionello su Clarita Petacci, scritta da per Francesco Vincitore, ma come se l'avesse scritta Mussolini. Beh, una cosa, un atto d'amore. È perché io rimasi a bocca aperta. Nini Vincitore ha proprio un amore per l'uomo, perché diceva una cosa molto bella Nini Vincitore, che è un personaggio, soprattutto in questa fase calante della, diciamo, della sua parte finale, dove è un perdente, non è più un vincente, è un eroe shakespeariano. Cioè le sue avvenimenti, sì, è una tragedia shakespeariana. Ovviamente qui stiamo analizzando dal punto di vista non storico e sociale, ma lo analizziamo dal punto di vista artistico, sì, teatrale, sì, teatrale e umano. Prende nessun tipo di posizione storico politica. No, Mussolini niente. È già stato ben definito e ben inquadrato sì, storicamente. Sì, no, no, però è vero che drammaturgicamente parlando è veramente un dramma shakespeariano, sì, come l'ha impostato lui. E allora Luca, grazie. No, grazie a voi. No, però è poco, torni, non so quando, però mi piace, sì, non ti posso incastrare due domeniche di seguito, ma c'è una storia lunga. Ritornano, no, sempre. A volte ritornano. Signori, Luca Biagini ai microfoni di Radio 24, noi andiamo avanti ovviamente con altri ospiti, c'è un altro straordinario attore doppiatore, ma c'è anche una bravissima locopedista, e allora lì sarà molto interessante. A tra pochissimo con Voice Anatomy, grazie. Buona serata, grazie a voi. Voice Anatomy. I've seen you change the water into wine. I've seen you change it back to water too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty. Between your love and mine. Eccoci di ritorno a Radio 24. Ovviamente oggi è dedicata a questa atmosfera straordinaria che soltanto un grande come Leonard Cohen può portare. Si parla di voce, Voice Anatomy, ed è giusto ricordare il grandissimo Cohen. Vicino a me mi ha raggiunto adesso Alessandra Resca. Sapete perfettamente che la nostra trasmissione è sfaccettata e entra declinandosi in tutte le sfaccettature ovviamente della voce, e lei è una dottoressa responsabile del servizio locopedia presso la divisione chirurgica chirurgia orecchio ospedale pediatrico Bambino Gesù o Bambin Gesù, che dire si voglia. Con lei abbiamo incontrato l'altro anno e parliamo proprio di queste problematiche infantili soprattutto, perché è giusto accorgersene in tempo. Nel frattempo tanti messaggi sono arrivati per il nostro amico Luca Biagini, saranno una ventina che gli fanno i complimenti fino all'inverosimile. Fagli dire no, non posso, perché intanto è andato via, ma poi è una pubblicità, non possiamo fare un claim di una grande pubblicità. Un altro: straniante, mesmerizzante, coinvolgente, incantevole, sorprendente, inatteso. Va bene, c'è un altro invece, è un'offesa gratuita. Io lo sapete, leggo tutto perché è giusto leggere tutto, però questo mi sembra veramente stupida e superficiale, non è una critica. Un conduttore tale di infimo livello, becero e squallido, ignorante, inascoltabile. Mi sembra veramente una persona. Ma che troppo, no? Sì, no, è troppo. Quando è troppo così, è come se ti dico sei meraviglioso, sei bello, sei impossibile, sei la persona migliore. Ok, anche lì è bugia. Qui mi sembra dare la possibilità a tutti di entrare ed emettere fiato, in questo caso emettere delle sentenze. Dati lo scritto. Umberto Eco si era pronunciato, no, su questo. Sì, sì, esatto. Io leggo tutto ed è giusto, però queste non sono critiche, non le posso affrontare, sono soltanto persone che non hanno nulla da fare, ma noi ce ne freghiamo. Invece questa è una cosa molto interessante, molto importante, soprattutto per dei genitori all'ascolto. Okay. E allora voglio entrare proprio nel vivo di questa discussione. Il linguaggio nel bambino. Allora, quali sono le bandiere rosse nello sviluppo comunicativo e linguistico, Alessandra? Che uno ha dei figli, dice ma tutto bene, dice calcia, baglia, ma è normale. Non lo so. E allora, okay, analizziamole. Beh, le prime, le cose più importanti da osservare quando il bambino è molto piccino, quindi prima dei 2 anni, sono proprio la voglia di comunicare che ha il bimbo, okay? Che si manifesta prima che dica le parole. Con la gestualità, ad esempio indicare gli oggetti quando li vuole, utilizzare dei gesti come buono, okay? Che comunque condividono con l'adulto dei significati. Questo già nei primi mesi, dopo il primo anno, insomma. Diciamo che già indicare i bambini tra i 10 e i 12 mesi lo fanno, e già fare buono tra i 12 e i 14 mesi lo fanno, oltre a comprendere tantissime cose. Molti genitori dicono il bambino non parla, non dice niente, ma capisce tutto, no? Questa sì, è un'altra cosa che non è una bandiera rossa, una bandiera bianca, cioè no, bello, certo, una cosa positiva, esattamente. Oltre alla qualità del gioco, cioè bambini che già intorno all'anno cominciano a utilizzare gli oggetti per quello che gli oggetti fanno, quindi spingono le macchinine, fanno galoppare il cavallino, eccetera, finché non cominciano a fare finta di dare la pappa al bambolotto, fare finta di metterla a letto, maschi o femmine, eh? Sì, non si decide la sessualità se un bambino dà da mangiare al bambolotto. Esattamente, anzi bene, anche i maschi dovrebbero avere i bambolotti. Mio figlio c'aveva Pippo e Topolino, ieri gli stava dando la pappa. Perfetto, allora sta era l'unico modo per farlo mangiare sotto le gambe dell'uomo ragno, non capisco per quale motivo, però era l'unico modo per dargli da mangiare ieri. Perfetto. Però è vero, capisco, ecco, quando capiscono tutto è una frase tipica di noi genitori, dice ma butta questa al secchio, lui ci va, dice incredibile, l'ha fatto, esatto. È normale. E questo introduce anche un altro argomento, sì, che è quello dei bambini magari che possono avere delle perdite uditive. E questa è una cosa che un genitore se ne accorge ancor prima che magari il bambino, che ne so, dorme, tu fai tantissimi rumori e lui non si sveglia, che già quello è un primo campanello di allarme, ma anche la mancanza di una comprensione proprio completamente adeguata. E questo non lo sai già all'inizio, no? Si fa questa analisi diagnostica. Sì, ci sono gli screening uditivi, ci sono per fortuna gli screening uditivi, ma è da poco che sono diventati obbligatori. È vero. In Italia, e ancora non tutti riescono, non è così capillare. Perché ancora uno può aver perso magari l'udito al 40%, allora magari sente, lo screening quello è buono, però poi a 6 mesi ti accorgi che oppure non è così buono. Oppure ci possono essere delle perdite progressive, sì, dell'udito, cioè si nasce con un udito abbastanza adeguato e poi nei primi anni di vita può si degenerare. Sì, cosa, insomma, uno conviene fa a questo punto dei screening anche quando si vede che il bambino, insomma, ha delle difficoltà di comprensione. Oppure magari anche per stare tranquilli, magari a 6 mesi facciamogli uno screening. Se non l'ha mai fatto, lo deve assolutamente fare. Anche prima. Sì. Anche alla nascita. Non sai quanta roba ho buttato per te. Era io, no, quante volte ho urlato schiaffarle o le mani vicino all'orecchio. No, perché? Ho capito, no, ma noi abbiamo delle... Non si fa. Io redarguisco sempre i genitori dal fare dei tentativi casarecci. Sì, è vero, è vero. Perché li mette anche in ansia quando poi, insomma, magari non c'è motivo, esatto, o viceversa. Poi si tranquillizzano crescono. Quando, esatto. Esatto. Però io qui devo fare anche la parte del genitore medio, che è questo. Ah, sì, quello sì, che si alza e sente se respira. Io sono arrivato al punto, sì, anche di mettere lo l'ho specchio. L'ho fatto anche io tante volte. Specchio sotto al naso e vedere se si appanna, cioè... Questo perché non dorme mai e quindi evidentemente quando dorme... Il mio non dorme mai, per cui sto tranquillo, cioè ho chiamato l'esorcista più che un medico, cioè a quel punto... Però ecco, sto facendo ovviamente l'avvocato del diavolo, quello che poi fa un genitore, sì, perché assolutamente fa questo. Invece che cosa sono proprio le disfonie infantili? E le disfonie infantili sono le problematiche inerenti alla voce. Questo, le disfonie sono problematiche di adulti e bambini, eh? Insomma, anche certo, gli adulti sono disfonici, anzi tanto più ci sono le disfonie legate al lavoro, attori, insegnanti, cioè che uno gente perde che la voce usa, oppure o la perde, oppure usi male la voce, male. Quindi sono queste disfonie disfunzionali, cioè dovute al cattivo uso delle corde vocali, della respirazione, e quindi ci sta una voce rauca, una voce soffiata, una voce, insomma, non adeguata. Si perde la voce. Lo urliamo da questi microfoni da tempo. Infatti se urliamo diventiamo disfonici. Però se urli impostando bene il diaframma, eccetera, come con Eleonora Bruni abbiamo fatto per qualche lezione, abbiamo fatto proprio delle lezioni teoriche, dei tutorial, e sarebbe bello che ci fossero proprio a scuola. degli insegnanti. Sì, sì. Anche perché della voce. Mentre con gli adulti si può lavorare, i logopedisti lavorano e con l'adulto, con i bambini non che non si possa lavorare, ma spesso è importante modificare l'ambiente intorno al bambino. Certo. Cioè sono gli stessi genitori che usano male la voce, sono delle abitudini viziate e quindi il bambino poi. Qual è l'igiene vocale da seguire quando si hanno queste disfonie vocali? Allora, intanto appunto i genitori vengono istruiti a modificare loro il loro tono di voce. Spesso si parla a casa con la voce molto alta e il bambino di conseguenza urla anche lui, oppure certo. si parla mentre ci sta la radio, la televisione accesa, quindi tutti devono tenere per forza un volume di voce più alto. Oppure banalmente dentro casa la mamma chiama il figlio da una stanza all'altra urlando e ovviamente lo farà anche il figlio. Quindi se i genitori modificano queste abitudini quotidiane, già questo comporta, cioè già il bambino modifica anche il suo uso della voce. Ecco, i grandi dovrebbero evitare di stillare in discoteca, in un bar frequentato troppo alto e allo stadio, insomma. Esatto, perché i bambini usano, cioè più che altro è proprio lo sforzo, l'abuso vocale che fanno, no? Cioè urlano oppure bisbigliano, anche bisbigliare è uno sforzo vocale. Certo. Raschiarsi la gola è uno sforzo vocale, insomma. Perché anche un bambino può soffrire di questi, dell'edema o piuttosto del nodulo alle corde vocali. Assolutamente sì. E rischi poi non farli assorbire, che comunque rimanga una disfunzione poi... Comunque si può fare terapia logopedica, certo. anche ai bambini piccoli, però certo ci vuole anche una padronanza, una conoscenza del proprio corpo, che più un bambino è piccolo meno ha, cioè anche insegnare la respirazione costo-diaframmatica a un bambino di 5 anni è veramente impegnativo. Sì, difficile, esatto. però si può far capire in un altro modo, insomma sì, certo. Perché sono tanti bambini afoni, diciamo è raffreddato, no, è mal di gola, ma l'afonia continua, no, bambini questa disfonia. Bambini ci sono, assolutamente sì. Bisogna stare attenti anche per un bisogna grande. controllarli se ci sono i noduli, modificare l'ambiente intorno al bambino, sì, assolutamente. Sicuramente se vivono dentro una discoteca, insomma, il bambino sì, quello non succederà. Il fattore di rischio, il fattore di rischio è altissimo. E tu curi anche questi ci dici a noi bolognesi come si fa a pronunciare la Z e la S, grazie Marco. No, è bellissimo detto lasciala. Così i miei parenti sono di Ferrara, quindi lasciala. Peccato che io non ce l'ho, mi dispiace. Beh, non guarda, averla. Io stavo l'altro giorno a Sassuolo e devo dire, parlare con un emiliano, un romagnolo, sembra sempre che hai finito di fare l'amore da poco oppure stai per mangiare qualcosa di buono, per cui non la abbandonate. No. Sì, ci sono dei modi, ovviamente. Quella è dizione, non è logopedia. La logopedia devi rimpostare la voce per salvare un po' le corde vocali e rimpostare tutto, questo è, però voi rimanete così. Vorrei sapere se i bambini sono doppiati da bambini o da adulti. No, da bambini. No, solamente da bambini. Una volta erano signore anziane che doppiavano i bambini. Sì, sì, perché le voci... O una donna, come Giorgia Lepore doppiò Shredder e Ricochet nel Campione di Zeffirelli. Insomma, ci sono degli esempi di donne che doppiano bambini. Quello sì. Però ormai si è arrivati a un tale tecnicismo buono che si trovano anche dei bambini... bravi a doppiare. E allora abbiamo cominciato adesso questo nostro percorso con Alessandra, già i primi tasselli li abbiamo inseriti. Noi ci sentiamo tra pochissimo con Voice Anatomy. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. bredaportoni.com vi presenta Voice Anatomy. That it was wrong, I didn't have a doubt. I was dying to get back home, and you were starting out. I said I'd best be moving on, you said we have all day. You smiled at me like I was young, it took my breath away. Sempre Leonard Cohen, tanto per rimanere oggi è così, anche perché ci ha salutati da poco ed è giusto che qualcuno che non conosce Leonard Cohen dica vabbè, sono curioso di sentire questo gran poeta. E allora stavamo percorrendo la disfonia infantile, tutti i problemi legati all'infanzia, come riconosce, abbiamo parlato anche un po' di sordità, ma approfondiremo anche questo. Lo sviluppo, quando finisce questo sviluppo del linguaggio nel bambino? Allora, insomma, avevamo detto i prerequisiti, che sono saper i gesti, indicare, la gestualità, i gesti. La la comprensione e il gioco. A 2 anni il bambino inizia a non solo a produrre le prime parole, ma proprio a combinare le prime parole, e dopodiché c'è uno sviluppo importante in quantità e un miglioramento in qualità del linguaggio, finché intorno ai 3 anni, 3 anni e mezzo massimo, anche perché ci sono delle finestre temporali, il linguaggio non ha terminato il suo sviluppo, e quindi il bambino, quando va alla scuola materna, stiamo indietro. Mi correggono, assolutamente sì, assolutamente no, eccetera eccetera. Per cui, insomma, c'è questa evoluzione dai 2 anni, è una tappa importante. I bambini devono combinare due parole. Sì, sì. Un minimo di parole ci sono? 50 parole ormai. 50-80 parole, veramente, questo è il minimo. Adesso parole a casa, semplici, certo. A casa vai a fare il conto. No, intanto io lo faccio perché sono l'espressione dei genitori all'ascolto. Per cui stasera sicuramente qualcuno sì, dirà parole semplici, casa, sì, sì, ma anche più semplici, sì. Anche pappa, mamma, butto, boom, ok, insomma anche parole di una sillaba soltanto, però devono essere parole. A Roma, sì, si a Roma è già una parola, insomma, sì, sì. Per cui quella è importante, questa tappa sì. È importante, sì. Per cui l'evoluzione deve essere esponenziale a questo sì, punto, sì, no? In quantità e dopo in qualità, cioè i bambini piano piano migliorano anche la fonologia, finché appunto a 3 anni le parole prodotte non sono uguali alle parole degli adulti. Io torno sul discorso della sordità, anche perché sì. Da pochi giorni una mia carissima amica ha scoperto dopo, ha avuto dei problemi il bambino alla nascita, credo anche un problema di ossigenazione, eccetera, eccetera. E quello che ti avevo detto prima, che c'era una sordità già all'inizio, ma non se ne sono accorti perché era sì. Una sordità bassa, cioè un 20%, insomma, una adesso, sordità media, media. Sì, per cui sentiva, sì. Reagiva e tutto. Sì. Adesso invece è arrivata quasi al 100% a un orecchio. Lui ha quasi 3 anni e deve mettere le protesi. Ha messo le protesi. Sì. Anche se un orecchio ci sente bene, le protesi vanno a tutte e due le orecchie. Anche lì sono rimasto un po' così. Sì, questo poi deve essere l'audiologo, sì, a certo, seconda a della sordità, a fare la prescrizione. Comunque diciamo che bisogna ripristinare in ogni caso l'udito il più simile a quello all'udito normale. Ancora non con un'apparecchiatura interna, anche perché siamo andati molto avanti, insomma. Per fortuna sì, oggi anche le sordità profonde possono essere riabilitate, l'udito può essere ripristinato e questi bambini possono avere uno sviluppo del linguaggio pari allo sviluppo del linguaggio dei bambini normoudenti, certamente con logopedia, certamente con un lavoro in collaborazione anche con i genitori, però si possono raggiungere, si devono assolutamente raggiungere la normalità, assolutamente sì, nello sviluppo del linguaggio. Eh sì, perché sì. È andato veramente tanto, adesso sono apparecchi ancora sì. Esterni per un bambino piccolo, se no, no, l'impianto cocleare si essere. Fa proprio diciamo tra i 12 e i 18 mesi, perché assolutamente presto, sì. In alcuni casi in cui ci stanno forme di meningite, per cui ci può essere un'ossificazione delle parti interne anche prima dei 12 mesi. Sì, assolutamente sì, perché appunto, come abbiamo visto, cavalca lo sviluppo del linguaggio e quindi il bambino deve essere esposto al linguaggio, deve sentire il linguaggio il prima possibile. E noi come ce ne accorgiamo qui dalle difficoltà? Vabbè, proprio il bambino di sordo profondo, un bambino che se non fa lo screening comunque, insomma, vabbè, non si gira quando lo chiami, certo. Sì, ma non solo, anche tantissimi rumori ambientali, no? Appunto, dicevamo anche la porta che sbatte, e un ritardo anche vocale, un ritardo anche del semplice babbling, la lallazione, quello che fanno i bambini piccoli, no? Sì, matta, ok? Eccetera, anche quello che è un gioco motorio che fa il bambino e si riascolta la sua voce, non che nel bambino sordo profondo non ce l'abbia, però è di meno, è rallentato, certo. Non c'è un tartaglio, non c'è particolare variabilità nelle sillabe che dice, assolutamente sì, perché vedo, lo sto notando, intorno ai 2 anni proprio c'è questa lallazione e poi la parola che conoscono alla fine. Ale. Esatto, cioè, nasce la parola dalla lallazione, cioè utilizza le stesse sillabe, no? Con cui lallava, poi fanno le prime parole, come anche mamma e papà, no? Cioè sono gli adulti che dicono ha detto mamma, in realtà il bambino la prima mamma è poco intenzionale, ma e poi rinforza. Vorrebbe dire qualcos'altro con la M, ma esce mamma, per fortuna esce mamma. Esatto. Meno male. Però la prima parola che ha detto mio figlio è stato papà. No, sì, giusto per vantarsi. Lo dico per dire, non era papà che voleva dire, no, era proprio papà, capito? Lo dico a tutti i papà, che noi veniamo sempre per secondi, siete sempre migliori voi. Insomma, ci stanno tantissime cose che riguardano, cioè uno non ci fa caso, cioè uno parla la voce del bambino, la voce di una persona, ma è importante. Io veramente lo urlo da quasi due stagioni attraverso queste onde radiofoniche, che è importante, è il nostro strumento, è lo strumento del nostro futuro, del futuro dei nostri figli, o di tutti, saranno i prossimi insegnanti, politici, generali, qualsiasi. Comunque la voce è l'elemento di comunicazione più importante al mondo, e ripeto, non la bella voce, le belle intenzioni, il modo giusto di utilizzarla senza perderla, anche perché un professore che ha una voce suadente, giusta, con delle intenzioni giuste, riesce a invogliare di più una persona a studiare. Un bravo politico con la voce giusta, suadente, riesce a farsi votare. Un generale a farsi ascoltare dai propri uomini, un medico a veicolare magari la cura giusta. Io non lo so che devo fare, io ho detto pure al ministro, ma soprattutto insegnare l'italiano. Adesso non è che dovete farlo voi, che siete un potere riabilitante. Apre il campo della scuola, esatto, la famiglia. Però sarebbe bello avere insegnare l'italiano, ma non soltanto la grammatica. Bisogna leggere, Leggere, assolutamente, respirare, saperle, esatto, perché è giusto. Per imparare che la lingua orale bisogna aver padronanza della lingua scritta. Una professoressa a Roma ha detto, dai, parlami dei Garibaldi, parlami dei Garibaldi, parliamo di Garibaldi. No, va bene, è giusto salvaguardarli i nostri dialetti quando siamo in famiglia, fra amici, ma a scuola no. A scuola bisogna parlare italiano. Certo, c'è una lingua formale, assolutamente. Si deve imparare, almeno uno deve saperla. Cioè, il figlio di una mia amica ieri mi ha detto, ha preso 7 in inglese e 5 in italiano. Cioè, mio figlio parla meglio inglese che italiano. Non è possibile una cosa del genere. Senti, a me piace questa cosa dell'igiene vocale che stavamo affrontando. Che uno pensa di lavarsi la gola in qualche modo, invece l'igiene vocale è anche l'igiene ambientale. Anche l'idratazione, sai, è molto importante. Bere spesso, idratarsi. Bere spesso sì, quello non ovviamente la Coca-Cola o l'aranciata, bibite zuccherate, però l'acqua sì, l'idratazione fa parte, anche stare in ambienti insomma dove c'è l'umidificatore se sono troppo secchi. Non il condizionatore che può seccare anche noi in sala di doppiaggio, anche se è stata a luglio-agosto, doppiamo senza condizionatore. Magari no, è perché ti spacca, ti secca le corde vocali, che quant'è? Un centimetro? E comunque la respirazione è la base, la respirazione è la base. La base per tranquillizzarsi, la base per prendere una decisione. Fateci caso, e l'abbiamo fatto con Eleonora in questi giorni, questo sorta di tutorial, abituare le persone a respirare prima di parlare, che è importante, e anche usare i vari risuonatori sopraglottici, tipo il naso, anche quello insomma. Noi lo facciamo, all'ultimo ci diranno, vabbè, abbiamo imparato. Mi sta facendo un cenno Alessandro, dobbiamo poi continuiamo ancora un po' con la nostra amica Alessandra Resca, locopedista, per poi con la logo. Esatto, non loco, esatto, loco. Perché il loco che lo fai lì, il logo è un'altra cosa. E poi insieme misseremo con Alessio Cigliano, che è un altro grandissimo attore doppiatore. Tra pochissimo, tra poco c'è il TG, il GR. C'è il GR, allora fra un po' di più. Voi sanatomi. Sono Giorgio Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Giorgio Telesforo. Sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Voice Anatomy. Questo è l'inizio, ecco. Così c'è il paragone terrificante, Alessandro, però scusami, mi lasci l'intro e mi dai l'idea che non cominciava a parlare il grandissimo. Va bene, c'è vicino a me, dopo questo GR, non dico più TG, sono stato bravo, un GR, c'è ancora la nostra logopedista del Bambin Gesù, Alessandra Resca, e arrivano bellissimi messaggi. Infatti quanto è importante Voice Anatomy, bravi, il tema di cui parlate mi ha ricordato la figura di un piccolo ma toccante personaggio dell'amante di Joshua. Pensavo di Joshua, pensavo all'amante di Margherita Duras, per un attimo, però c'è un'altra amante, va bene, è troppo importante ridare l'udito ai bambini, dice Gianfranco. Grazie, grazie, grazie Alessandra, eccetera eccetera. Qui mi parla ancora di doppiaggio, il grande Eric Cartman è doppiato da un adulto, precisamente da una donna, mi pare, e questo controlleremo. E finalmente dite che Bossi Fedigrotti ha fatto un super corso di recitazione e lo spot è più bello. Vabbè, qui c'è uno spot perché era detto dalla stessa responsabile di questa Hollus, che non era un'attrice doppiatrice, e ormai è diventato un tormentone della radio. E vicino mi ha già raggiunto in anticipo Alessio Cigliano, che è un grandissimo attore e doppiatore, ma ne parleremo con lui della sua vita artistica tra poco. Era giusto invece fare questa fusione, questo mix, perché parlavamo durante la pubblicità LGR delle varie tipologie di vocalità, no? Quando noi ci capita di doppiare gli indiani piuttosto che il russo, piuttosto che un sudafricano, dove ogni tanto si interviene con la voce originale, invece noi, visto che doppiamo in italiano, dobbiamo essere anche noi che parliamo in quella lingua che un disastro. È un disastro. Un disastro. Ma perché in realtà già dalla nascita, già un anno di vita, a seconda della lingua a cui noi siamo esposti, diventiamo sensibili ai suoni linguistici di quella lingua in particolare, tagliamo fuori tutti gli altri. Ah. Ecco perché ci sono dei suoni, che ne so, per noi italiani, l'arabo, delle lingue arabe piuttosto che le lingue indiane, che hanno dei suoni che sono linguistici nella loro lingua, ma non sono linguistici per noi, non portano alcun tipo di significato, nemmeno li riconosciamo come suoni linguistici. Cosa difficile. Ok, cioè ci sembra che, ne so, magari uno si raschia la gola, invece quello nella lingua araba è un fonema, portatore, certo, di significato. Assolutamente. Però noi dobbiamo, no, non lo sentiamo più, perché già un anno succede più questa cosa. Esatto, non la classifichiamo come suono linguistico. Siamo già razzisti linguistici un anno. Per noi. Gli altri sì, esatto. E poi uno dice, come fanno gli arabi a imparare la lingua? È così difficile, no? Sì. Ma guarda quel bambino come parla l'inglese. Bravissimo, a 3 anni già parla inglese. No, no, ma è difficilissimo. Beh, ma sono nati così gli stereotipi, no? I cinesi, ad esempio, che parlano con la l invece della r. Perché non sentono la differenza tra la r e la l, perché nella loro lingua non è portatrice di significato, quindi loro sostituiscono quando dicono lana al posto di rana, perché non sentono la vibrazione. Soltanto dopo che sono rimasti a contatto con l'italiano per tot tempo, per un tempo prolungato, cominciano a sentire la differenza e quindi distinguono i due fonemi acusticamente proprio. Eh sì, esiste infatti in tutte le lingue quel suono, anche gutturale giapponese. Ti è capitato a te doppiare qualcosa di giapponese? Tu sei anche, vabbè, quello diremo dopo, cosa sei, cosa eri quando eri giovane di giapponese. Ma è vero, anche il suono gutturale, quello certo, la lunghezza del suono è portatrice magari di significato, certo. Esatto. Se uno dice vuol dire mi manchi tanto, se uno dice dice non me ne frega niente di te, insomma. Ma pensa per un giapponese com'è tremendo sentire un italiano, magari diranno questi come parlano. No, io ho sentito un cinese, cioè mi ha detto, però voi europei siete tutti uguali. Ma adesso vero. Io dico, ma che è vero, per loro sì, ma non è possibile. Allora, finché non senti la R, dico va bene, la nostra professoressa dottoressa ci ha spiegato, si può tollerare. Ma che tu mi dici che noi siamo tutti uguali, quando qui in Italia, solo in Italia siamo biondi, rossi, gialli, verdi, dei capelli, dei occhi, però de scusa tutto. Tu se vedi un sudcoreano, se vedi un giapponese, sono uguali. No, lo so, per noi sono uguali. Uguale. Tu sei indiano, è Bangladesh, vabbè, uguale. Lui mi ha detto, perché tu sei norvegese. No, e allora non è uguale neanche per noi. Sì, noi uniformiamo e siamo d'accordo. Però insomma, tu vedi qui una bella bionda con gli occhi azzurri, non è norvegese o svedese, no, è certo. Siciliana. Sì. No, è la stessa una roscia, non è irlandese. Però per loro, Parma. Guarda, io parlai con una in Thailandia, parlai con una di queste che fanno i massaggi. Ma perché? Ma lo vedi? Hai fatto pure ma di... no, ero con mia moglie, non ti preoccupare. Ma guarda che turismo. Scusami Alessandro, pensavo di aver invitato un professionista della parola. Esistono anche i massaggi. Poi io odio farmi fare i massaggi, quindi figurati. Quindi ho parlato molto con lei. E lei diceva, no, tu di dove sei? Ah, per me potresti essere tedesco, ungherese. Basta che paghi. Ma smettila. Ma questo è un momento serio, dobbiamo concludere. La nostra dottoressa e mi parla di massaggi thailandesi. Ma quanto ci hai parlato durante il massaggio? Ma parecchio, perché t'ho questa detto. È come la differenza fra lo spagnolo e il sudamericano. Però c'è Alessia Navarro che è brava in questo, che sta di là con Mauro Meconi, non mi sta ascoltando perché lo spagnolo è sempre rumoroso. Questa cosa, questa momento, sembra sempre che ti vogliono zompa addosso aumentate. Invece il sudamericano, questo momento che è molto aquí, è più delicato, è più, no, li riconosci. È come noi cacciaroni e gli altri, sì, un po' meno. Un romano come lo riconosci subito, certo, no? Immediatamente. Dal fonema. Qui mi dicono tantissimi bei messaggi. Bravissima logopedista, una bravissima logopedista mi ha seguito e aiutato a recuperare la voce. Grazie di cuore a tutti i dottori della voce. Questa è bene, bellissimo. Bene, sì, sì. Ma è importante, infatti questa trasmissione vuole essere anche veicolo in maniera anche leggera, perché dobbiamo alleggerire anche, come in questo caso, dei problemi anche molto importanti, ma che molte persone non ne sono a conoscenza. Ah, certo. E magari può aprire alla mente anche il nostro amico chirurgo della voce Diego Cossu, Fussi, che ci raggiunge ogni tanto. Insomma, sono tutti dottori come te, degli abitué di questa trasmissione, perché bisogna urlarlo dai microfoni quanto è importante. No, ma poi quante volte io dico per favore un logopedista in sala, grazie. Cioè, quando non riesci a parlare quelle mattine che proprio non esce anche neanche, no, un fonema. Poi l'altro giorno il direttore mi ha detto, durante un turno, un anello, mi ha detto aspetta Pino, vediamo se si dice scoprire o scroprire, come dici tu. E poi dopo anche detto, molto difficile. È difficile, ma io ho detto scroprire, sì. Lui mi ha preso in giro, ovviamente. Ma i bambini lo fanno questi errori quando sono piccoli, sì. È vero. Prima di, insomma, di parlare bene lo fanno, e sono anche errori molto carini. C'è mio figlio che sta dicendo da due giorni culo, ma non è culo, no, era canguro e la sua contrazione è culo. Ora la maestra, io le ho detto non è quello che vuoi pensare, perché magari ripete la parola finale di una parolaccia e comincia con baffa, allora lui ci ripete solo tutta, non la dice, perché un bambino di 2 anni non la dice tutta, no? Ma non è così, ho scoperto che è una contrazione di canguro. Ma dimmi, sì, come è venuto fuori culo. Non un lo so, non si sa mai, è così. È difficile, però, da giustificare con la maestra, però, però uno può provare. Ce l'ho, sì, sul telefonino, se qualcuno me lo porta al volo lo faccio sentire. Veloce, veloce, che mancano pochissimi secondi per salutare. Intanto ti ringrazio ancora. Tanto Alessandra, tu sei a Roma, tornerai, sì, sì, come, sì, senti il bisogno, bene, di raccontarci di qualcosa. Qualcosa. Poi tu sai che il bambino Gesù io lo frequenta assiduamente per altri motivi, benissimo, insomma, non di malattia, d'accordo, e quanto vi amo. Ecco, sto cercando sul telefonino il momento che lo dice, non mi vergogno, adesso qualcuno, aspettate che devo cercare dove l'ho messo, eccolo qua, eccolo, sentite un attimo. Il culo. Ma che ti ha insegnato queste parole? Canguro. Il culo. Ma no. Fantastico. Culo. Zitto. Ma che è sta parola? Il culo. Zitto. Capito? È spettacolare, spettacolare. È, è tutto vero. È tutto era vero. Canguro, cercavo di fargliela di tutta, ma non c'è riuscito. Beh, lo puoi usare per farlo vergognare quando andrà al liceo. Esatto, questo la tengo, ormai, esatto, ringraziando Dio ci sono queste testimonianze. Esatto. Senti, tesoro, grazie Alessandra, okay, grazie Aresca, grandissima, grandissima logopedista del Bambin Gesù. Alessio, tu resti qui con me. Non mi muovo. Non ti muovo, anche se servirebbe. Puoi anche rimanere un attimo, anche tu, se c'è tempo, e sentiamo un po' la voce di sé. Come vuoi tu, come vuoi tu. Se no, saluti adesso. Saluto, e allora saluta. Vado. Vai al lavoro, torni a casa. Grazie Alessandra. A tra poco con Voice Anatomy. Stufe, caldaie, termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Voice Anatomy. If the sun would lose its light and we lived an endless night and there was nothing left that you could feel. Come sempre ricominciamo con la bellissima voce di questo straordinario Leonard Cohen. Fantastico, strepitoso. Questa è la voce, mamma non c'è, mia, non c'è Pino Locchi, Luca Ward, no, nessuno che tenga, Cigoli o quant'altro dentro. Ci stanno pure 20-30 sigarette al giorno lì dentro, secondo me. A volte fanno bene. Però sì, poi forse a 80 anni alla un fine. Po' meno, un po' meno. Caro Cigliano, allora, ecco di qua. Tu sei nato a Roma il 28. 8 luglio del 66, eh? Bello attempato. Sei un doppiatore, ma sei anche un dialoghista e direttore di doppiaggio, per cui, no? Svolgi questa attività dall'80, ormai sono 36 anni, amico mio. Non è male. Vi si avvicina la pensione, eh? Sta buono, ma che io sono 57, è lontanissima. Tu sei legato a tantissimi personaggi, so che sei molto affezionato al dottor Carter di AR. Beh, sì, sì, per anzianità, sei... per anzianità di servizio, 14 anni. Hai doppiato, è vero, 14 anni AR. 14 anni. Che sì. Da noi a Roma invece è ER. ER, ER medico in prima linea. ER pronto soccorso. E come i medici stasera, io pensavo che fosse un'altra serie sull'ospedale. Invece... Sì, pure io, infatti quando mi hanno detto devi fare i medici, basta, no, te prego. No, l'ho fatto per 14 anni. Tu ce l'hai, vediamo che tipo di no, volevo vedere quante cose hanno tracimato, tirato fuori dalla tua. Beh, non riesco a capire, non c'è. Chiama Mauro Meconi, dottor autore. Aiuto. Cosa abbiamo di film scaricati dal nostro amico Alessio Cigliano? Stanno all'inizio, è vero, perché tu sei stato anche Heroes. Perdonami Mauro, c'era tutto, chiedo scusa in diretta. Passione e desideri Jude Law, e c'hai 12 anni schiavo di Michael Fassbender, perché sì. Michael Fassbender tu l'hai doppiato anche in un film che abbiamo fatto insieme, che era Dangerous Method, sì, esatto. Freud e Tori Jung, e anche in Steve Jobs. Ah, è vero, Steve Jobs, anche bellissimo, Steve Jobs. Guardato l'ultimo Steve Jobs, quello, sì, Michael, sì, l'ultimo, Fassbender, l'ultimo. Ne hanno fatti due, uno a scatto, no, dietro l'altro è col fidanzato di l'attrice di... No, tra l'altro bravo, ha fatto un bel lavoro, no, Fassbender 15 è... turni di colonna separata, una cosa incredibile, no, però che bello, perché sempre. Vedi il vero Steve Jobs, sì, sì, è vero. Tra l'altro quest'idea che hanno avuto di fare vedere il dietro tre le quinte. Momenti dietro le quinte, ma dei tre momenti, dei tre lanci del Mac alla fine, di quell'altro, il cubo, quello nero bellissimo, i flop, le varie cose che ha fatto, quindi con questa personalità estremamente forte, diciamo, di Jobs. Intanto, no? Non ero distratto, mi leggo i messaggi. Un saluto al bravissimo Cigliano, forse sbagliava la persona, no, vabbè, non è proprio su di te. Sicuramente, Cigliano non c'è errore, Cigliano sei tu. Tra i tantissimi personaggi a cui ha prestato la voce, porto nel cuore quella del dottor Manhattan, personaggio dai protagonisti del più bel film super oristico mai realizzato, Watchmen, sì. È vero, tutti si Billy Crudup, sì, tra l'altro doppiato, come tu lo sai, no, quando doppiamo con le bocche, sì, ci nascondono il film, nascondono per paura, film. Chissà per quale motivo, che noi chissà che possiamo, sì, fare, poi lo trovi, so, sotto casa dalla, no, poi signoria... era online due settimane, sì, sì, prima, tranquillamente, certo. Sì. noi infatti ci stupiamo al cinema, c'erano effetti speciali, c'erano gli orchi in questo, sì, film, sì. C'erano dei mostri, io ho doppiato Spider-Man, facevo la lucertola, ma lui non era vestito da lucertola e parlava. Poi alla fine... Ma perché quando li doppiamo sui pre, che ancora non c'è nessun effetto, esatto, non c'è niente, e vediamo le facce della gente, poi non saranno quelle, esatto, saranno altre cose. Dici, no? Sono bravi i doppiatori italiani, sì. non lo so. Qui mi chiede come sta Valerio, da un po' che non lo prendo in giro. Valerio si è operato, non so, poi dirò che tipo di operazione ha fatto, quando ci sarà, però non adesso, no. Carissimi Pino e Alessio, la coppia Spencer Hill e Giuliano Gemma hanno spesso sostenuto che venivano doppiati, perché impegnati in quella fase su altri set? No, ci sono altri motivi, insomma. Beh, sì, no, a volte no, no. Sì, ci sono altri motivi, tutto, nulla toglie la voce. Terence Hill era Pino Locchi, credo. Bel servizio, eh? Certo, beh. James Bond, e Glauco Onorato faceva Bud Spencer, devo dire, sì, che erano così accoppiati. È come Ermonnezza con Ferruccio Amendola, è doppiato Masmillan, era perfetto, sembrava che era quello, invece era lui. Thomas Milian è cubano, sì. Perfetto nell'interpretazione, ma Amendola gli ha dato proprio quella terza dimensione. Non sarebbe stato Thomas. No, assolutamente no. Però Cigliano, signori, io prima, poi scopro tante cose perché sono colleghi e ci lavoro insieme spesso e volentieri, ma non sapevo che era stato Ken il Guerriero. Eh sì. Cioè tu sei stato Ken il Guerriero. Ma tra l'altro sono stato Ken il Guerriero in un momento... Fabrizio Vitali è stato Remy, capito, sì, l'altra settimana, io rimango sconcertato. Rimani a bocca. Però Alessandro, abbiamo una cosa che ce lo racconta bene. Vai, mandala, va. No, non uccidermi. Non voglio combattere contro di te, sei troppo forte. Perché scappi? Tu sei un vigliacco, perciò non meriti neppure di continuare a vivere. Il mio nome è Alf, straniero. Sono qui apposta per affrontarti. Dov'è Lynn, la ragazza che avete rapito? Ho vinto quella donna in combattimento. Ora è mia. Se la vuoi, prima dovrai uccidermi. È proprio quello che ho intenzione di fare. Sono pronto ad affrontarti. Anch'io sono pronto, ma prima vorrei che mi dicessi a quale scuola di combattimento appartieni e chi sei. Alla divina scuola di Okuto, e il mio nome è Kenshiro. Non l'ho mai sentita. È un'idea veramente interessante. Ma senti, adesso vorrei sapere quando arriverà il mio avversario. Che cosa? Ma sono io il tuo avversario, chi altri? Ah, capisco. Per un attimo avevo pensato che si trattasse di quel piccoletto dietro di te. Come? Vabbè. Io... No, lascia pure la musica. No, resta. Allora dobbiamo parlare di... Vabbè, ma c'avevo 18 anni, questo era Cigliano. Un cristone enorme. Cigliano, sentiamo la sigla. Si incendiò e poi silenzio. Vai, canta, no, abbi coraggio. No. Fallo, sai cantare tu. Ma questo... Eccola. Senza pietà. Senza pietà è la parola giusta. Mai fermerai. Vabbè. No, sigla tra l'altro bella, no, sigla. No, ma io scherzo, ovviamente male, questo hanno fermato delle generazioni. No, l'hanno veramente fermati. Tra l'altro quando è uscito, io, a parte che primo fotogramma l'ho guardato, ho detto vabbè, stiamo facendo una cosa che non vedrà nessuno. No, invece. Ovviamente come ci sbagliamo noi al doppiaggio. Ma come canzoni, sta canzone vale niente. Sì, sta canzone 100 vale... milioni di copie in tutto il mondo. Esatto. Dopodiché 10 anni dopo, una decina d'anni dopo, nasce internet e faccio un sito, c'era una mail e mi iniziano ad arrivare 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50 mail. Kenny il guerriero. Io me l'ero pure dimenticato all'epoca, certo, devo dire la verità. Hai cancellato. Ma sì, perché vita poi noi come facciamo? Quando usciamo da una sala di doppiaggio ce la dimentichiamo la cosa, butti. Non per cattiveria né per qualunquismo. Per fare spazio a qualcos'altro. Perché abbiamo 3 turni, magari fai Romeo al primo turno certo. E il diavolo nel secondo, quindi esatto. Devi anche un po' uscire, no? Decontestualizzare. E quindi ho detto, oddio, da Kenny il guerriero. E feci un'intervista via web tutta così scritta questa qua, ecco. E mi dissero, ma tu che cosa ne pensi, il fan club di Kenny il guerriero? Mi dissero, ma guarda, sinceramente non pensavo, ma carinamente dissi, non pensavo che avrebbe avuto tutto questo successo. Strali, Cigliano ha doppiato questa cosa. Sei pazzo. Ora è pazzo, perché i cosplay ammazzano quelli. ma è una cosa pazzesca, un mondo tanto da che rispettare. Poi ho dovuto fare quasi una smentita e dire no, scusate, era una cosa che ho non detto è male. Però poi non è poi lo so che ha avuto un grande seguito. È bellissimo. È stato il primo di una grande saga di cartoni animati catastrofici che sono andati da lì e sono andati avanti. No, ma quelli sono avanti, veramente, come Ollie e Benji, sono punti fermi. Ma che scherzi. Oltre che un grande doppiatore, Alessio Cigliano è anche un egregio adattatore col punto esclamativo. Posso chiedergli un consiglio su come inserirsi in questa professione con una laurea magistrale in lingue? Grazie e complimenti per questa trasmissione che seguo sempre con piacere, dice Anna. Ma sì. Sai, Pino, secondo me più che sapere le lingue, perché poi tanti di noi le lingue non le sanno e si fanno tradurre i copioni, no? Quindi basta avere un buon traduttore e il copione l'hai tradotto. Secondo me più che sapere le lingue devi sapere di sceneggiatura, devi sapere come costruire le frasi, perché le frasi... Però l'adattamento è importante. No, insomma, ma è il 50% frase, del lavoro. È il 50%, frase con la... in inglese significa questo, esattamente, in italiano impronunciabile, ma devi trovare un'alternativa. Hai senz'altro un buon traduttore, se per caso... Beh, anche perché poi noi dall'inglese ok, ma se ti arriva dal finnico... là non è che puoi essere dal tu dal mandarino no, devi fidarti di qualcuno che ti faccia una buona traduzione, per cui tu dopo devi essere un bravo sceneggiatore e dopo devi essere secondo me un bravo sceneggiatore, devi saper rendere le battute in maniera che sembrano dette da due italiani. E il nostro che amico dove parlando. Può bussare, quale porte? Ma ci sono tanti corsi, io per esempio Gianni Galassi, un nostro amico, sì, ha fatto bravissimo. Un corso bravissimo, sì, è vero, Gianni Galassi, è vero, io sono stato ospite del suo corso perché mi occupavo della parte recitata di quello che scrivevano gli aspiranti di loghisti. E quindi loro scrivevano, poi io e Paola Maiano eravamo al leggio e interpretavamo le loro battute, se suonava bene. Per sentire se erano giuste, se suonavano certo. Bene, se c'erano le appoggiature giuste nel dialogo, se erano lunghe giuste, se erano recitabili, insomma. Quindi ha fatto un grande corso, secondo me interessante. Il problema poi è dopo, secondo me, perché tu puoi fare tanta teoria nella pratica, come dappertutto. Poi la pratica è quella che serve, cioè devi fare i tuoi dialoghi, dopodiché andare in sala e vedere che cosa succede. Sul campo. Bravo, è giusto così. Anche Tom Waits aveva una voce fantastica, nonostante la quantità di alcol e sigarette. Sì. È vero, un po' più bruciata di quella di Leonard Cohen, però anche lui si mette un grande cantore. Va bene, allora noi resta qui, Cigliano. Non, ti non mi muovo. No, hai visto, ti chiamano per nome e cognome, qui hanno scelto proprio te. A tra pochissimo con Alessio Cigliano e ovviamente Voice Anatomy. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Voice Anatomy. Eccoci, questa volta senza la canzone di Leonard Cohen, perché ho chiesto all'amico bravissimo doppiatore Alessio Cigliano di leggermi una poesia di Leonard Cohen con tratto di sottofondo di Alleluia. E allora? Tieni. Questo è l'inizio proprio di Grace di Jeff Buckley. Bellissima. Non devi amarmi solo perché sei tutte le donne che non ho mai voluto. Sono nato per seguirti ogni notte, mentre sono ancora in tanti uomini che ti amano. Ti incontro ad un tavolo, prendo le tue mani, tra le mani il tuo pugno, in un solenne tassì. Mi sveglio solo con la mia mano nella tua assenza all'Hotel Discipline. Ho scritto tutte queste canzoni per te. Ho consumato candele rosse e nere a forma di uomo e di donna. Ho sposato il fumo di due piramidi di legno di sandalo. Alleluia, alleluia, alleluia. Vabbè, grande pezzo questo di Cohen. Ah, sì, infatti, l'ha rifatto, l'ha tutti, inciso, l'ha rifatto, no, ha cambiato le parole. Ci ha messo. Qualcuno diceva che l'aveva scritto in 2 anni. Poi lui ha fatto un'intervista. Ha detto: ma che 2 anni? Ci hanno messi 5. Ci metti 5 minuti o 5 anni a fare una cosa del genere. Infatti. Poi un inno pazzesco. Abbiamo cominciato proprio la trasmissione con Luca Biagini che leggeva la traduzione in italiano di Alleluia. Di Alleluia, bellissimo. Anch'io qui mi parlano della voce, grazie a Franzi che mi fa i complimenti. Vabbè, anche a te, ci fanno complimenti a tutti e due. Ma dai. Sì, anch'io anni fa conobbi una logopedista specialista della voce durante una vacanza a Rio de Janeiro. Era famosa, la chiamavano la ragazza dei fonema. Vabbè, no, state diventando anche come Woody Allen. Non è divertente. Bello. Bellissima, va bene. Allora abbiamo cominciato con questo. Ora voglio sentirmi un Alessio Cigliano. Pensavo cominciassi come Ken il guerriero, invece no, l'hai fatta bene. Non devi amarmi solo perché sei tutte le donne che non ho mai voluto. T'avrei ammazzato la trasmissione. Sei pazzo. Sarebbe tornato Leonardo Cohen. Ti avrebbe appiccicato al muro. Uno schiaffone. Invece tu, molte serie di successo. Heroes anche, che è stata una bellissima serie. Poi morta nel nulla perché non è stata uccisa con l'ultima puntata che diceva: nella prossima serie vedrete tante belle cose. No. Niente, è finita. Succede questo, è morta. Invece mi sento un Michael Fassbender, visto che te lo doppi abbastanza frequentemente, in 12 anni schiavo, il film che l'altro anno ebbe tantissime candidature all'Oscar. Prego. Ora, il servo che conosca la volontà del suo signore. Che conosca la volontà del suo signore. E non disponga di conseguenza. Disponga di conseguenza. O non agisca secondo la sua volontà, sarà percosso con molte frustate. Avete sentito? Frustate. Il negro che non obbedisce al suo signore, cioè al padrone, capite? Quel negro sarà percosso con molte frustate. Ora, molte significa tantissime. 40, 100, 150 frustate. È nelle scritture. Mazza, che cattivo che hai eri. Capito? Negriero, cattivissimo. Tra l'altro, con la direzione di Sandro Acerbo, questo film, arrivai lì, sapevo di farlo, ma del film ovviamente non si sapeva niente. No, ancora. Ancora non puoi sapere. Lui mi disse: sei un po' cattivo. Detto, vabbè, okay, meno male. È cattivissimo. Ho fatto i primi tre anelli, ho detto: e questo è un po' cattivo. Pensa demoniaco che cosa succedeva. Come film Twitter, guarda, lui è un duro. Sì, è un duro, è un po' duro. E tra l'altro, nel primo turno, che fortunatamente era, me lo ricordo ancora perché me lo ricordo, era un venerdì pomeriggio, ultimo turno della settimana. Iniziava a urlare, c'era la scena delle frustate, una cosa pazzesca. Io ho finito il turno sulle ginocchia perché mi è andata via completamente la voce. Mi sono sgolato completamente. Peccato che Alessandra Resca pure è andata via, sennò... Sì, mi poteva dare dei suggerimenti per non farlo. E meno male che c'era Weekend, perché poi il lunedì mattina avevo l'altro turno e... Dai a cortisone si è chiamato. Sì, praticamente. Qui ricordano tutte le serie, perché ne ha fatte tantissime. E anche Ragazzi mi ricordava Master of Sex. Beh, carina, con Michael Sheen. Sì, lo doppia anche altre volte. L'ho doppiato la prima volta in Frost Nixon, un film bellissimo, di Ron Howard, veramente bello, di parola. Quello film scontro di parola. Incontro che poi ha segnato la fine di Nixon. Sì, la fine di Nixon. Quell'intervista pazzesca. Quell'intervista, tra l'altro, ricostruita in maniera filologica, perfetta, fatta veramente perché bene. Perché ho visto il documentario, è identico. Identica, sì, veramente bravo, con questa intervista che sembrava volgere verso Nixon in tutte le maniere. E invece... poi alla fine trovo il guizzo per fargli confessare tutto il qualche problema. Qualche scandalino. Sì, mamma mia, veramente tanti scandali. È un film anche quello difficile, perché tutto di parola, è la parola. Tutto di parola, quindi non puoi sbagliare niente, devi no. essere chi era il direttore lì, Marco Guadagno. Marco, bravissimo anche Marco lui. Guadagno. Squadra speciale Cobra 11. Sanno tutto, eh. Questa è un'altra, questa è un'altra. Neanche leggo il testo dei miei autori. Allora, c'è un aneddoto su Squadra speciale Cobra 11. Arriva questa serie tedesca, tu lo sai, serie tedesca Derrick, negli anni 90, certo. La vedi e la tratti un po' così, la no? serie tedesca. La serie tedesca. Faccio il provino sul protagonista della serie e lo perdo. Ah. Vabbè, succede, ah, sono certo, cose sì, che sì, succedono. Vince eh? Un altro bravo. A chi tocca non si ingrugna, come certo. si dice a Roma. Perdo il provino. Era arrivata solo la prima puntata. Dalla seconda puntata, il coprotagonista della serie muore e arriva un altro. Arriva questo Erdogan Atalay, questo attore tedesco che interpreta il personaggio di Semir Gökçen. Semir. E quindi faccio... un ascolto voci, andavo bene e... E subentro al coprotagonista della puntata. Dopo 8 puntate il protagonista va via. Ho capito, quello sei tu allora. E il mio protagonista, cioè Semir, è restato per 20 anni. Ho appena finito di doppiare, sto finendo di doppiare la prima parte della 21esima serie di Cobra 11. Di Cobra 11. Finisce va avanti più. Dal 96. Ho capito, tu fra Ken quanti anni? Ken no, Iar 14 anni. Squadra speciale Cobra 11, 20. Beh, sono ormai sono dei compagni di vita. Quelle sono mutuo, cioè no, lì sono quelle no, cose. Ma tra l'altro male. Lui ha cambiato partner in continuazione, ne ha cambiati 8-9. Ma gli altri no. vanno via, ma lui è fedele nei secoli, come l'arma dei carabinieri. Che resta lì e tu non resti si muove. Lì. Sta lì e non si muove, questa grandissimo. Cosa. Buon pomeriggio, è piacevole poter ascoltare Cose Impossibili, una trasmissione non urlata, non con voci sovrapposte e con temi interessanti, questa dedicata al grande Cohen da emozioni. Gli arabi, poi aggiungo un'altra cosa, hanno difficoltà a pronunciare la P. Mia figlia un anno diceva Tototto invece di Cappotto, Citolo invece di Triciclo, Ciliegia invece di Teresa. Qui mi sembra di me, su Ciliegia invece di Teresa, mi sembra. Comunque Augusto, grazie per la tua attenzione, ma soprattutto quella di tutti i nostri ascoltatori che ne sanno più di noi di quello che facciamo. Beh, sì, io sicuramente, preparato... sono tutti molto più biografi di noi, veramente. Sì, sì, i nostri autori hanno preparato, i miei autori, tante cose, ma poi si sono sovrapposte, ovviamente. Anche X-Files ha fatto di OC. X-Files ho fatto tanti. Ho scritto tanti dialoghi. Ed era una serie bellissima. E poi facevo Rat Boy, il Alex Krycek, il deviato della serie, una delle anime cattive della serie, che poi venne sparato in fronte. È quella che scrivi meglio poi quando sei adattatore, gli altri scrivi male. No, vabbè, sì, sto attento. Qua ci sono tutte le labiali su lui, non voglio sfigurare. Gli altri sono fuori sync. No, poi tra l'altro, bellissima serie da fare negli anni 90, era una serie cult, quando per documentare quando facevi l'adattamento dovevi andare alla libreria, in biblioteca dovevi andare, certo. Perché non c'era internet, quindi loro scrivevano delle robe pazzesche. È vero, adesso clicchi e senti come si pronuncia. Che ci vuole, ma anche trovi una cosa e trovi subito la spiegazione in internet, certo. E trovi l'equivalente italiano. All'epoca dovevi andare in biblioteca per... lì è l'adattatore. Guarda, è l'adattatore c'è vero. C'è un aneddoto veramente carino. War Games, un film degli anni 80, sì. Che ha fatto Matthew Broderick, ha fatto epoca. John Badham. Tutti i computer sono fatti di silicone. Questa era la battuta. Tutti, no, i computer, i componenti di silicone del... Tu se la vai a ascoltare, ti prende un colpo. Perché Silicon all'epoca nessuno sapeva niente di computer negli certo. anni 80. E il povero dialoghista, che forse non si è documentato, ma forse c'è stato un errore, ma l'hanno fatto tutti, tutta la filiera del doppiaggio certo. ha fatto questo errore. C'è stato l'errore di dire che i computer erano fatti di silicone. Quindi mi immagino questi computer morbidi. Delle tette no? meravigliose. Delle tette fantastiche. Invece era silicone, era un'altra cosa. È silicio. È silicio. È silicio. silicio, certo. I componenti sono di silicio, però all'epoca si sbagliava tanto questa cosa, c'erano tanti errori perché non c'era internet, come facevamo? C'era il mio computer che c'ha una terza meravigliosa, prima c'aveva una prima, adesso grazie a questa operazione si è fatto una bella... No, infatti l'adattatore... Caro Alessio, Erdogan di Cobra 11 è bravo quanto te oppure lo migliori? Non lo so. Comunque i tedeschi sono bravi a fare le serie, dice Mario Darimi. Le serie d'azione, sì, qua spaccano 35 macchine, c'è l'incidente all'inizio di ogni puntata che io ogni volta faccio stop, fermi, perché è una X, non passa ovviamente. Sì, non vuol dire che non c'è dialogo, non c'è dialogo, non ce ne fanno vedere. E quindi no, voglio vedere l'incidente, quindi a parte che le adatto anche, ma quelle che non adatto voglio vedere che cosa si inventano. E io mi immagino questo sceneggiatore che la mattina si alza, sta a casa sua, si beve un caffè e poi scrive, c'è un'auto incazzato articolato. Con le assicurazioni. Sì, tra l'altro c'è un'auto articolato che salta dentro una roulotte, saltano quattro macchine per aria, fanno, certo, esplodono, e dico, ma che testa c'ha questo sceneggiatore? Sono tutti quanti soldi c'hanno, dice pure Alessandro, il nostro tecnico del sonno, dice anche macchine da 50-60 sì, mila sì, euro. Sì, sì, sì, sì. Ma tutti, vabbè, sono sponsorizzatissimi ovviamente, però insomma ne sfondano 30 a... Magari sono vuote, senza motore, sì, che si fanno volare con... Però le fanno volare, quindi esplosivi sotto che li fanno saltare per aria, roba eccezionale. Stavo leggendo un'altra cosa che tu dovresti leggere, perché hai fatto un film bellissimo, devo dire che ha cambiato anche la storia di certi... Era poi stato il primo film che parlava di omosessualità in maniera particolare, che era, sì, Brokeback Mountain. Insomma, il primo rapporto fra due, cioè... Ma tra l'altro un film difficilissimo da fare, perché Heath Ledger in quel film parlava un dialetto montano. Cioè, due cose difficili in quel film: il cognome dell'altro, Ed Ledger e Brockman Mountain. Sì, meno male che la regia era De Ang Lee, che sì, comunque lì quello è facile. È facilissimo. Il film è delicato, veramente delicato. Tra l'altro doppiato su una copia scurissima, come ci arrivano a noi, sì, no? Sì, che non si vede niente. Se parlava lui o parlava un mulo. La scena di sesso all'interno della tenda, la prima scena di sesso, devo dire, io sono andato a tentoni, perché in tutti i sensi. Più che altro a tentativi. Che a tastoni, sai, mi ha dato un po' di più, e che ne so, è nero, non vedo niente. Non te ne aspetti due cowboy dentro una tenda che fanno la carità, una storia bellissima, anche il finale magico, sì, di Ledger con la camicia di lui, sì, insomma, è un film d'amore. Io giuro, la battuta finale, sì. Sì, capito, è un film d'amore davvero, come quando doppiai con Bocca Nera Keanu Reeves e River Phoenix nel film, oddio, mi fugge, di Gus Van Sant. Film d'amore vero, e non sappiamo come dirci ti amo noi due. Il direttore ha detto, come lo dici alla tua fidanzata? Sì, uguale, lo devi dire nella stessa maniera, non è che c'è puoi diversità. Dirlo diversamente, non c'è diversità. No, bellissimo, siamo arrivati alla chiusura di quest'altro blocco, c'è un altro ancora insieme dove ti farò recitare una bellissima poesia scelta dalla nostra Alessia Navarro, che lei è espertissima, di Arthur Rimbaud. Perché prima era Rimbaud, invece Rimbaud. Io ho detto, perché Sylvester Stallone, cioè Stallone, Rimbaud si dice, così è, quando ha mandato una lettera d'amore per il suo amante, altro grandissimo poeta maledetto. Ma a tra pochissimo con Alessio Cigliano, il finale della nostra trasmissione. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Voice Anatomy. Ma oggi nasceva un altro grande, l'ho detto all'inizio della trasmissione, un amico, Jimmy Fontana. E io a questo punto vorrei leggere il mondo, siamo riusciti al volo a scaricare le parole e mi piacevano, eccole. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Lo facciamo insieme. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Gira il mondo, che bello, gira nello spazio senza... Con gli amori appena nati, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, già finiti, con la gioia e col dolore, gioia e col dolore della gente intorno a me, signori, Jimmy Fontana. Un mondo soltanto adesso io ti guardo nel io mi perdo e sono niente accanto a te. Si è fermato per un momento quando te ne sei andato tu, amico mio. Va bene, un abbraccio ovviamente al grande Jimmy Fontana e a tutta la famiglia che adoro, alla quale voglio veramente bene. E allora, caro Cigliano, invece è arrivata la Navarro e mi ha corretto immediatamente. Allora è stata scritta da Verlaine, la poesia ovviamente è dedicata ad Arthur Rimbaud, questi due poeti maledetti amanti. E allora vorrei che tu la leggessi, ecco, la leggo insieme, no, la leggo insieme a te, ti seguo passo passo, ovviamente, vai, caro Cigliano, a te. Pronti? Dopo che hai fatto Broke My Mountain, è giusto, è giusto dedicare questa, è giusto, storia di bellissima omosessualità. Mortale, angelo e demone, vale a dire Rimbaud, tu meriti il primo posto in questo mio libro, benché uno sciocco imbrattacarte t'abbia trattato da debosciato, imberbe e mostro in erba e studente ubriaco. Le spirali d'incenso e gli accordi di liuto segnano il tuo ingresso nel tempio della memoria e il tuo nome radioso canterà nella gloria, perché mi hai amato come bisognava. Le donne ti vedranno gran giovanotto forte, bellissimo, di una bellezza contadina ed astuta, molto desiderabile, di un'indolenza audace. La storia ti ha scolpito trionfante sulla morte e fino ai puri eccessi, amante della vita, poggiati i bianchi piedi sulla testa dell'invidia. Ma che onore, bella, ma bravo. Che onore. Ma no, l'onore è, io sono molto contento perché veramente è una bella passeggiata questa trasmissione. Guarda, io credo di aver superato i 1500 puntate in televisione da solo, con la premiata, con l'Allegra Brigata, eccetera, ma la soddisfazione che mi sta dando questa trasmissione supera il fattore domeniche con gli ospiti, eccetera, ma qui si parla. Ci si confronta, ci si diverte, non si prende sul serio, nonostante tutto. E infatti anche qualcuno lo sottolinea, questa trasmissione è talmente piacevole perché nessuno urla, dice parolaccio, interrompe, sì. Che cazzo, davvero, guarda. Tutti parlano con il sorriso in bocca. Spettacolo, spettacolo, spettacolo. Bravi, si dice. Allora altri complimenti a te, che sei meglio di Erdogan, qualcuno già lo sa. Grazie, mille. Dice, ma se non ci fosse lui non ci sarei neanche io, quindi. Oddio, no, se non c'era che nel guerriero non c'eri tu. Tucci. Dimmi, Alessandro, mi sta dicendo il nostro tecnico del suono che ormai mi dice a sorpresa, perché ormai vedi quanto significa collaborazione, per questo io amo questa trasmissione a 360 gradi, perché tutti fanno tutto. E allora mi dice, prima di chiudere però devo mettere una cosa, ti prego Alessandro, vai. Io non lo so, Yattaman, Yattaman, no. Al gran filone d'oro. Tu sei Yattaman. Lasciala, lascia. Buona guardia fa. Ecco, canta, canta. Oddio mio. Vabbè, questa è una delle prime cose che ho fatto. Ma Pino, io per te, guarda, Alessio Cigliano, voi sanatomi, finisce qui. Si possono tagliare. Yattaman, sembra napoletano. Yattaman. Yattaman. Poi le solite cose. Yattaman, dicevamo nel doppiaggio. Yattaman nella sigla. Glan si mettevano d'accordo, no? Vabbè, ma succede. I piccoli errori che ci stanno. Ma prima non ci si faceva caso. Alessio, mi leggi una storia tutte le sere? La tua voce talmente. Grazie. Quasi, grazie. Luca Ward, qualcuno dice. Attenzione. No, quasi, per carità. Luca e Luca. Luca quasi è Luca. Luca Ward. È bellissimo. Mamma mia, quasi grazie. Luca Ward è bellissimo. Grazie, strepitoso. Giussi dice, fino a questa trasmissione è una delizia per le orecchie. Grazie, grazie davvero. Poi oggi non ci sono le partite, magari molti nuovi ascoltatori si sono aggiunti alla filiera di Voi Sanate. E continuate. Sì, sono tantissimo, sono ormai veramente, superiamo le 200.000 unità, ma di persone attive. L'altro anno ci hanno dato la soddisfazione di vincere anche questo premio, proprio per miglior trasmissione radiofonica dell'anno, ed è stato bellissimo tutto questo, grazie a chi ci ascolta, grazie a chi la fa, che magari c'ha dei contenuti che i miei amici Meconi Navarro riescono a dare, ma noi siamo supportati anche dal caro Alessandro e Rachele in quest'ultimo periodo, che sono veramente molto attenti. Abbiamo un collegamento con Capuano, così per salutarlo, non c'è sport, ma è una gioia, perché io mi collego. Dopo di noi va la trasmissione Tutti Convocati, che parla di, ovviamente, di calcio, di sport a 360 gradi. E io non so mai i risultati la domenica. Io sono... Sei fuori, sono perché fuori. Stai qua. No, sono fuori, non voglio sapere niente, però certo. Lui lo chiamo mai una gioia, perché ogni volta arriva l'ultimo risultato della Lazio e lui dice allora... Te massacra. Capirai. Mai una gioia, però ultimamente devo dire c'è grande soddisfazione, anche se fa 3 settimane. C'è il derby e allora sarà un po' dura stare sarai, là avrai tutto quanto a disposizione, avrai tutte le informazioni così. Ma sai, se arriva a questi livelli fra Roma e Lazio può essere un derby divertente, a meno se gioca cosa. Tu sei tifoso? No, sì. Io sono tifoso di Formula 1, non di ma calcio. Ma dai, a me Formula 1 dopo che sono partiti o che stanno per arrivare. Pensa, io ancora invece sono lì che mi guardo tutti i giri, guardo tutte queste cose, i tempi, ho tutti i tempi sotto mano, sono... 0,2 decimi in meno, che vuol dire? Ma ieri sta, non 30 muscerì. Secondi ha fatto 2 decimi in meno, come lo prende? Però sto lì che come, dico dai, dai. Come lo prende? Ma tu sei un pazzo. No, ma è vero, bisogna poi rispettarle quelle cose. Senti, amico mio, ci sarebbero tante cose da dire, da fare ancora, ma tanto è una trasmissione che andrà avanti, mi auguro ancora per un po', per cui significa che tu devi venire, devi tornare, tornerai insieme ad altri colleghi, perché ci è venuta anche l'idea di fare delle trasmissioni tematiche. Bello. Nel senso, Kenny il Guerriero, ok, tutti quelli che doppiavano Kenny il Guerriero, tutta la schiera di Ascolti di alle stelle, t'assicuro, veramente. Ma sì, no, ma sicuramente. Ascolti alle stelle. O la saga del Signore degli Anelli, tutti quelli che ci sono ancora, che qualcuno ci ha salutato, come il grande Mori, che era il nano meraviglioso, sì. Non solo, insomma, ci mancano un po' tantissime voci. Però ci sono voci. I ricordi audio in questo caso, sì, che sì, possono sì, essere, che ci accompagneranno, sempre presente con i ricordi saranno audio. Sempre presenti. E allora, signori, va bene così, ci siamo, io ringrazio come sempre anche Milano che ci supporta e sopporta e ci aiuta nella messa in onda. Ringrazio Alessandro, ancora Rachele, ancora i miei splendidi autori Mauro Meconi e Alessia Navarro, che non solo sono autori ma sono due attori straordinari, per cui serve anche questo. L'amico Alessio Ciliano, grazie davvero, Pino, per la tua grazie veramente bella disponibilità. Luca Biaggini, la nostra amica Alessandra Resca, insomma, ho ringraziato tutti oggi. Noi ci sentiamo domenica prossima e stiamo preparando delle puntate veramente straordinarie. Grazie per volerci così bene.